Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma che siete tornati? Ma vaffanculo, si stava così bene. Vabbè, fammi sentire la zanzara, dai. Questo è forte, eh? Trovatevi un lavoro, cazzo. Beh, l'invito non è male, trovarsi un lavoro, eh? Perché diciamo sì, la verità. Ho sentimenti contrastanti. Sì, no, ma perché questo non è un vero lavoro, no? Non è un vero lavoro. Diciamocela tutta, non è un vero lavoro. Non c'è dubbio. Cruciani, Parenzo, quando la smetterete di dire cazzate, allora mi darò fuoco in piazza anch'io! Quest'altra ha partito male, poi ha recuperato. Sai chi mi sembrava all'inizio? Sai quello là che chiama sempre da Chieti? Com'è che si... è Giuseppe da Chieti, il nostro amico. Perché non si fa vivo Giuseppe da Chieti? Chissà ecco se si... chiamali no, tutti. No, io non racconta. chiamo nessuno. Come se già non arrivassero in massa le mosche. Le mosche. Ieri ha chiamato Mauro, ha cominciato a parlare di relazioni tra Boschi e Renzi. Poveretto. Un cugino della Boschi avrebbe detto... cose senza senso. Autorevolissima, no. Mauro da Mantova. Poi mi ha mandato dei messaggi insultanti che non hai idea. Cioè, già di te ne dice di tutti i colori, no? Gli ebrei, eccetera. Poi ha cominciato anche su di me adesso, perché l'ho interrotto, perché me l'ho rotto i coglioni a un certo punto, no? Vabbè. Mauro, però ti voglio sempre bene, eh? Non ti preoccupare, ti voglio ma sempre bene. Ma come si fa a dire voglio bene a Mauro da Mantova? Cioè, sei veramente dei malati. Come si fa a voler bene no, a io un po'. Io un po' gli voglio bene, devo dire la verità. Ma un po'... decorticato come quello lì. Ma va bene, perché non si può voler bene anche un decorticato. A parte che non lo considero un decorticato, lo considero uno con le sue idee, le sue cose, dai, Maurone. Siamo al top! Alla fine fa parte di questa grande famiglia, anche della tua, David. Anche della tua fa parte. Guarda adesso, anche della mia famiglia. Fa parte anche della tua famiglia. Nella mia famiglia ci sono dei personaggi, come in tutto, un po' strambotti, ma mai ai livelli di questo povero pazzo scatenato qui, ti assicuro, guarda. Vabbè ragazzi, abbiamo un po' cazzeggiato prima di affrontare un tema molto serio, un tema molto importante, il casino che stanno combinando i 5 Stelle a Roma. Ecco, questo è fondamentale. Sì. Allora ragazzi, io vi dico solo una cosa, a me giudicare un'amministrazione dopo, quant'è, 2 mesi alla fine, compresa l'estate? 70 giorni. Non si può fare, no, non è che uno può dire questi sono un fallimento, sono un disastro, cioè, ma che stiano combinando un casino, come dire, che si stiano affossando con le loro mani, su questo non c'è dubbio. Prima le dimissioni degli assessori per motivi che alla gente, se tu vai a domandare perché si sono dimessi 2 assessori a Roma, posto che la gente importi sapere perché non lo sa nessuno lo sa, nessuno. E vabbè, d'accordo. E quelle potrebbero essere anche delle cose politiche ristrette nell'ambito del potere romano, no? Del nuovo potere grillino romano. Si fanno la faida tra di loro, le varie correnti, come nella vecchia DC, addirittura peggio, come nei socialisti. Cioè ci sono le correnti pure da loro, quello contro quell'altro, Di Maio contro quello, eccetera, eccetera. Ma la cosa più grave è un'altra, al di là di tutte queste cose che sono piccole cose alla fine. La cosa più grave è quella che è accaduta nel... la cosa più grave è quella che è accaduta nei giorni scorsi. Cioè questa signora Raggi sapeva fin dalla fine di luglio, la signora Raggi, quelli che dicono onestà, quelli che dicono quando un politico è indagato deve andare a fare in culo, lasciamo perdere questa questione degli indagati. Quelli che dicono onestà, onestà, trasparenza, i cittadini devono essere informati di tutto, eccetera, eccetera, sapeva fin dalla fine di luglio che un suo assessore è sotto inchiesta per la questione dei rifiuti. Ora, un grillino cosa dovrebbe fare? Invece di informare solo il direttorio. Scusi, Grillo, che cos'è il direttorio? Lei sa, lo sa che cos'è il direttorio? Lei ma state costruendo una campagna mediatica. Ma non è successo, stiamo costruendo, ma come non è successo niente, Grillo? Avete costruito una campagna contro il nulla. Ma no, come? C'è un sindaco che governa da 90 giorni magnificamente una città in cui è sparita l'immondizia. Ma non è vero. Avete costruito una campagna Muraro. Ma che cos'è Muraro? Beh, lo vorremmo sapere anche noi, cioè, ma non c'è niente, è tutta la luce del sole. Beh, meraviglioso. No, è tutta la luce del sole. Ora no, noi prendiamo un click ed è finito il casino. Ah, sostituite la Muraro così, sostituite la Muraro è così. È una cosa virtuale, non esiste. Ah, la Muraro non esiste. Ah, non esiste. Non c'è, non è mai esistito. L'assessore al comune, l'ambiente non c'è, perché è tutto nella rete. Quindi vedi che parlate di cose che non esistono. La rete. Okay. Beh, nella rete non c'è inquinamento, quindi non c'è la Muraro. Ho capito, ma come la sostituite adesso? Dice già non esiste. Ma non c'è da sostituire niente. Tu prendi un computer, un iPad, chiami Casaleggio, il figlio, cerchi di digitare, cerchi in rete Google, dici Muraro, poi lo fai sparire con un'operazione di pulizia della rete e metti un altro, e hai fatto tutto, risolto il dibattito di mai. Ma chi è questa gente qui? Ma che cosa dite? Parlate di cose che la gente non sa. Allora, però, non si può mentire di fronte ai propri elettori. Cioè, voi che avete detto onestà, onestà, onestà, dovevate dire chiaramente quella indagata. Ma questo è il punto. Bravo, beh, solo questo, basta, non c'è nient'altro. E c'è una frase che condanna la Raggi. Soprattutto perché tutti hanno fatto il mazzo ad altri amministratori, a Pizzarotti lo hanno messo in croce e sospeso. Perché non aveva detto. Ma che scusa, senti che cosa ha detto, senti cosa diceva la Raggi. E la sindaca di quarto. Che fai, Siardi? E Pasolini, okay. E Moravia, e la sindaca di quarto. Sì, e sì, la sì, sindaca sì. Di quarto. Allora, cosa avete fatto? Cosa li hai fatto tu alla sindaca di quarto? No, io niente, io non ho fatto tu niente. Tu una campagna di stampa vergognosa gli hai costruito la povera sindaca di quarto. Però, appoggiando i tuoi amici 5 Stelle, vergognati. Tu l'avete messo in croce, come avete fatto con Pasolini, come avete fatto l'avete costruito un mostro. Devi chiedere scusa alla sindaca di quarto. Ma io che c'entro adesso, scusa? Tu, perché tu hai votato 5 Stelle, devi chiedere, dici guarda, io ho sbagliato. Ma non c'entro un caso, io non ho votato a Roma, assolutamente. Hai fatto una, non lo so se tu l'hai fatta, però ci stava bene in questo Giacchius, forse non l'hai fatta neanche, effettivamente non hai colpo. Però ci stava bene dire che hai contribuito anche tu a gettare fango sulla sindaca di quarto. Vabbè, chiedere comunque scusa. La Raggi, basterebbe questo video, diciamo, di inchiodarla alle sue responsabilità, soprattutto. Tutto di trasparenza secondo i loro criteri, perché un altro politico, cioè, non sarebbe obbligato a raccontare la verità. I politici di solito mentono sempre, Berlusconi, Renzi, tutti. Questi qua invece dicono: noi non mentiamo mai, noi siamo trasparenti. No, amico mio, senti cosa diceva su Pizzarotti il sindaco di Parma, la Raggi, senti. Il punto è molto chiaro e mi sembra che il blog l'abbia spiegato bene. C'è stato un problema di trasparenza nei confronti soprattutto dei cittadini, per cui questa situazione Pizzarotti la conosceva da tempo e purtroppo non l'ha resa nota. Non l'ha resa nota, ma sapevi dalla fine di luglio che c'è un assessore indagato e secondo i tuoi cazzo di criteri di trasparenza non lo comunichi ai cittadini? Ma siamo impazziti. Siamo impazziti qui. A parte che secondo i criteri di questi qua, questa Muraro deve essere presa a calci nel sedere. Sarà la persona più onesta del mondo, ma secondo i criteri dei 5 Stelle, questa Muraro deve andare via subito, immediatamente. Mi pare chiaro, no? Mi pare via. Secondo i criteri applicati da sempre da parte dei 5 Stelle. E adesso pure la Raggi, però. Cioè, che mente, ha mentito per oltre un mese di fronte ai cittadini romani e a tutta Italia. Dai. E adesso io non me la voglio, adesso chiameranno quelli che dicono no rispetto a quelli di prima, questi sono onesti. Me ne fotto, io analizzo e giudico quello che succede. No, senti la Raggi che dice, no? Senti la Raggi che dice: nessuno ha mentito, se me l'avessero chiesto avrei risposto. Come se me l'avessero chiesto? Che vuol dire me l'avessero chiesto? Sei tu che devi dirlo, no? Non è che se me lo avessero chiesto avrei risposto. Nessuno ha mentito. Per quanto riguarda le indagini, credo che se mi avessero fatto una domanda del genere avrei risposto quello che sto rispondendo oggi a voi. Siamo a conoscenza dell'esistenza delle indagini. Ma è una cosa veramente pazzesca, dai, è veramente pazzesca. Anche perché ha detto: ho saputo del fascicolo della Muraro a fine luglio. Poi giocano anche sul fascicolo, sulle carte, eccetera. È incredibile, si devono scusare. E forse secondo i loro principi si dovrebbero anche dimettere tutti in blocco. Io sono venuta a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome verso la fine del mese di luglio e tuttavia siamo in attesa di conoscere, proprio di leggere le carte, di conoscere quale sia l'oggetto di questa indagine. Allora, si può dire qualcosa anche su Di Maio, Parenzo? È interessante questa cosa qua, anche il signor Di Maio. Di solito non mi appassiono a queste cose qua, però in questo caso, diciamo, le cose bisogna dirle chiare e tonde. Allora, è curioso. Di Maio viene informato dalla Raggi, anche lui sta zitto. Cioè, anche lui è stato zitto. Cioè, sembra che ci sia una mail addirittura. Ho capito, ma sei informato, a parte che stasera doveva andare non so dove, la nuova trasmissione di Semprini su Rai 3, ma è scappato, non c'è andato, ti rendi conto? Non c'è andato, no? Tu sarai contento forse perché sei in onda più o meno allo stesso orario. No, a me, figurati. Però non c'è andato, è scappato, invece di rispondere alle domande è scappato. Ora, Di Maio, sapeva o no che questa era indagata? Se lo sapeva e non l'ha detto, sempre secondo questi criteri scelti dai grillini, via, a casa pure lui. Questi qua sono dei Torquemada. Questi ragazzi se ne stanno adesso. La seconda notizia del giorno, che interessa ai pochi, perché dai, i 5 Stelle sono da 8 ore chiusi in una stanza di Montecitorio. Tu che sai tutto, raccontaci questa cosa. Sì, no, allora... no, stanno lì chiusi. È in streaming questa cosa? No, in genere le riunioni non Bravo, le fanno. Sì, questo è interessante. Sì, sì, sì, sì. Allora, da 8 ore i 5 Stelle sono chiusi legittimamente, perché ovviamente i panni sporchi si lavano in casa. E invece dicono: perché non mandate questa cosa in streaming? La domanda è: siccome sono chiusi direttori, mini direttori, minchi, tutto quello che volete voi, da 8 ore, nessuno dice niente. Lo streaming dov'è? Si potrebbe dire che sono passati da onestà a onestà, omertà. No, vabbè, adesso questo sì. Sì, questa è una sintesi. Allora, mi sembra che il professor Galimberti, tuo ospite preferito, uno dei tuoi ospiti preferiti, il professor. Grande filosofo, sì, bravo. Dice che il Movimento 5 Stelle è come Scientology, mi sembra abbia detto, Sì, detto così. La Raggi è stata eletta sindaco, benissimo. Allora governi, lei. Non il direttorio. Il direttorio chi l'ha eletto? Ancora, la Raggi è stata eletta sindaco. Non può rafforzare la sua posizione dicendo Grillo mi ha mandato un SMS in cui mi conforta. E che cosa mi importa a me di Grillo? A me pare che tutta la struttura del Movimento 5 Stelle assomiglia un po' a Scientology. Dove ci sono dei guru che decidono che cosa deve accadere. Si arrabbieranno, professore, adesso. Si arrabbieranno molto con lei, Mi sembra di poter dire che non ha tutti i torti il professore, il professore non ha tutti i torti. Perché per carità adesso chiameranno quelli che dicono attaccate sempre i 5 Stelle. Noi non me ne fregano assolutamente nulla dei 5 Stelle, di nessuno. Io leggo ogni tanto, non sempre ovviamente, leggo molto poco, caro Parenzo, molto poco. Sai che mi sono arrivati un sacco di messaggi? Leggo e poi giudico, leggo, sento e poi giudico. Non mi interessa, non ho pregiudizi. Sai che mi hanno mandato durante l'estate un sacco di messaggi persone che hanno cominciato a pisciare dentro il lavandino. Cioè, ma questo te lo voglio. Che messaggi, vedi? Ti assicuro, mi sono arrivati un sacco di. Si vede che hai seminato bene durante l'anno. No, un sacco di persone hanno preso spunto dalla zanzara per cominciare a pisciare dentro il lavandino. Cioè, chiamano per dirti: guarda, ho letto quest'ultimo libro del premio. No, hanno detto io, grazie oppure a voi. Il libro Strega. No. Leggiti il libro Premio Strega. Assolutamente, no, assolutamente. Vabbè, questo. Quando sento il traffico divento pazzo! Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, questo lo dedico a te e a chi riesce ad ottenere un mese e più di ferie. Vergogna. Ecco un cretino che dice Radio 24 serbi di Renzi, Cruciani e Parenzo serbi di Renzi solamente perché critichiamo i 5 Stelle, un altro cretino. 338 339 909, vabbè, non posso dire tutto il numero. Un altro cretino serbi di Renzi. Chiama se hai coraggio, chiama. Io però vorrei fare qualche domanda al nostro amico cittadino Giarrusso. Nostro amico, che dici? La facciamo qualche domandina rapida, veloce, no? Sì, perché risponde, perché secondo me sono tutti lì in riunione, sai? Ma quello se ne fotte, figurati. Cioè, non parla di ma non gliene frega niente delle riunioni all'amico Giarrusso. Proviamo un po', dai. Senatore, anzi cittadino 5 Stelle, Sì, pronto? Cittadino? Sì, con chi parlo? Beh, amico cittadino, quanto tempo non ci sentiamo? Sono Cruciani, come stai? No, non ci posso credere, non ci posso credere. Cosa state combinando a Roma? Un casino pazzesco, diciamo la verità, o no? Ci hanno votato per quello. Come vanno votato per quello? Fare casino? Per rivoltare Roma come un calzino. Ho capito, ma non state rivoltando, state rivoltando da soli come un calzino, cioè... come no? Scusa, però le cose sono... Tu nessuno, nessuno ha mai dichiarato che sarebbe stato facile. Beh, d'accordo, ma da qui a mentire ai vostri elettori, non esagerati, mentire. Beh, non avete detto che quella è indagata. Il sindaco non ha detto che quella era indagata. O no? No. Come no? È così, questo è incontrovertibile, è così, è cittadino, o no? No, non diciamo di queste cose. Ma scusami, sapeva e non ha detto nulla ai cittadini. Questo lo può fare un Berlusconi? Sono in aereo. No, sì, ma questo lo può fare un Berlusconi, un Renzi? Non lo potete fare voi? Non ha mentito. Ma come non ha mentito? Voi onestà, no. Onestà e non ha detto niente. Ma che deve fare? Si deve dimettere la Raggi o no? Ma secondo me si deve dimettere Parenzo. No, vabbè, prima. Ma lasciamo perdere. È difficile quello. È pacifico. Ma adesso, seriamente, la Raggi si deve dimettere o no? La Raggi si deve dimettere o no, senatore? Cioè, cittadino, scusa. La Raggi deve fare il sindaco di Roma. E la Muraro? Pronto? La Muraro si deve dimettere? Non ti sento più, Cruciani. Sì, va bene, non mi sento. Pronto? Giarrusso, pronto, già Di Maio è scappato. Già Di Maio è scappato da Rai 3. Hai capito? Scappa pure Giarrusso, Scappa pure Giarrusso. Strano, però, perché Giarrusso ha avuto genere. Ma sì, ma perché non sanno che dire? Perché alcuni pensano che questa qua se ne debba andare perché è indagata. Alcuni pensano addirittura che la Raggi sia incompetente e che doveva comunque dire che quella era indagata. Invece... è positivo che la riunione di oggi in corso non sia in streaming. C'è una cosa civile, secondo me, questa che finalmente. Ma non lo so, ma chi se ne frega. Contravvenendo alle loro regole, vabbè. Perché stanno contravvenendo. Però la riunione di oggi non è in streaming. Vabbè. Come mai? Daniele Massa Carrara, vai, Daniele. Buonasera, mi sembra che sia stato costruito un caso su una cazzata colossale. Sì, no? Ma spesso anche gli altri costruiscono. No, io parlo su alcune cose, vediamo un Azzolini magari indagato per chi? Ecco, mostro Azzolini. Che non ne avete neanche parlato e non ne ha parlato nessuno. Ma quello è il sindaco di Roma, amico mio, il sindaco di Roma. Che ha del presidente della commissione. Ma chi è che non ne ha parlato? Che vuol dire? Non ne ha... Senti. No, non lo so, perché del porto di Molfetta. Sì, vabbè, ma che c'entra adesso? Cosa c'entra? No, non lo so, non ne ha parlato nessuno. Tu sei attivista 5 Stelle, sei un elettore di 5 Stelle. No, io non sono neanche attivista, io voto chi mi pare, ho sempre votato chi mi pare. Ecco, di fronte al sindaco di Roma, una che dice onestà, onestà, trasparenza, che sa che quello... Ha saputo che c'era un fascicolo che non si sa neanche se c'era. Ho capito, ma lo... Ma va, ma... Il fascicolo è diverso, cioè... Non leggiamo, ci sono delle cose. Ragazzi, che però non ci pigliamo per il culo, non giriamo intorno, non giriamo intorno alle parole. Il culo, cioè abbiamo il sindaco di Roma. Beh, ma questo è sempre. Ma nessuno ha mai fatto questo gran casino per una sessione. Ma come no? Loro lo hanno fatto, loro hanno sempre fatto casino. Fatto bene, ma quelle sono cose importanti. Siete voi che dovete parlare. Sui condannati in Parlamento e al Senato, che è una cosa fuori da qualsiasi stato. A parte che ce ne sono pochissimi ormai di condannati, Maremma Maiala può anche. E ce ne sono. Daniele, il punto è un altro: chi professa onestà, onestà, trasparenza, trasparenza, se poi sa che un suo politico. La Muraro sicuramente darà le dimissioni. Se viene no, ma lei lo sapeva da un mese, ma secondo il criterio... Un mese d'agosto, cioè... Ma che c'è tra mese d'agosto? Fa un comunicato stampa... Dopo 6 mesi, poi ha detto che sapeva che c'era un fascicolo. Dai, non giochiamo sulle parole, no, dai. Non sono parole, un fascicolo è una cosa. Vabbè, secondo te sono piccole cose e vogliono farla pagare ai cinque? Un fascicolo, ricorda che lo aprono su chiunque, lo potrebbero aver aperto anche su di te un fascicolo. Ma quello ne hanno aperti tanti, amico mio, di fascicoli su di me. No, vabbè, lì anche di garanzia magari su di te. Ma ci sono anche rinvia a giudizio, anche rinvia, beh, ti dico, ci sono rinvia a giudizio, a voglia su di me, a voglia. Magari qualcuno che hai detto qualcosa. Beh, certo, ciao. Allora, Dario da Milano, pure Parenzo ha rinvia a giudizio, Dario, vai. Ma io mica faccio il sindaco di Roma, però. Che vuol dire? Mica faccio l'assessore all'ambiente. Ma insomma, se quella sapeva che quella era indagata, e lo sapeva, pure il Fatto Quotidiano, che appoggia sempre i 5 Stelle, attacca la Muraro. No, ma scusa, la controprova dell'imbarazzo non siamo noi, ma sono loro che da 8 ore non proferiscono una parola e sono riuniti per capire. E quello che non va a Rai 3 è l'altro, Dario da Milano. No, ma vai. Scusami, poi adesso noi possiamo dire tutto quel che vogliamo, ma c'è un fatto che questi ascoltatori dovrebbero capire. No, gli ascoltatori capiscono, quelli che chiamano dovrebbero capire. E se quelli sono riuniti da 8 ore, ci sarà un problema a loro, evidentemente. Beh, dica certo, no, non è così semplice. Dario da Milano, vai, Dario. Ciao a tutti. Allora, meno male che sono in riunione da 8 ore, vuol dire che lavorano, mentre gli altri politici non fanno un cazzo, stazione nei loro uffici privati. Vabbè, ma dai, a parte che gli uffici privati, guarda, ho 60 anni, a parte che in questo caso, scusami Dario, in questo caso gli uffici privati di avvocati consigliano ai 5 Stelle di mettere un assessore, dunque uffici privati anche in questo caso. Adesso io credo che intanto tutto sto polverone sia anche legittimo da parte vostra, da parte chi, perché loro se hanno fatto qualche errore l'hanno fatto, ma chi va al mulino si infarina, cioè qualche cosa va bene. Diverso però, è quello però, che stava accadendo con l'altro mondo politico, quello che avevamo qualche giorno fa, qualche giorno prima dell'avvento di cioè tu stai porta. Dicendo comunque meglio questi di quelli che rubavano prima. Beh, io guardo le intenzioni di queste persone qua, mi sembrano intenzioni piuttosto, ho capito, ma la gente vuole pulite. La gente vuole i fatti, no? Ha fatto una cazzata, non c'è discussione, è giusto, ha fatto una bella cazzata, quella là, sa una cosa, ma dila. E poi ti vorrei dire una cosa, non è mentire quello che ha fatto la Raggi, ma è stata una missione. Cioè non ha detto una cosa, diverso è mentire, cioè dire una cosa che non ragazzi, è vera. Ma vedi Parenzo, la cosa incredibile è che quando si tratta di loro, quando si tratta dei 5 Stelle, valgono valgono no, i distinguo, ha detto certo. Questo invece dell'altro, quello che non rimprovera questo quello... fa tenerezza, però a me molta tenerezza, a me non mi fa arrabbiare così, fa tenerezza perché è la fede cieca, no, arrabbiare nella, a me non me ne politica. Può a me alla fine non me ne può no, fregare no, ma questo dimostra quanto sia forte la fede cieca per qualunque cosa non faccio i 5 Stelle per i loro elettori, va bene. Infatti questo dimostra i sondaggi che ieri sono stati diffusi che dicono che nonostante tutti i 5 Stelle vincerebbero comunque le elezioni, perché questo è un altro dato. Vabbè, ad oggi vabbè. No, intanto ha chiamato Giuseppe dalla provincia di Chieti. Giuseppe, che cazzo vuoi? Adesso perché ti ho chiamato, Giuseppe, che vuoi? Uè, Cruciani, vabbè, aspetta lì, fermo Cruciani e Parenzo, andatevene a fanculo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Cruciani, voglio un tuo commento. Ma è possibile che a ogni cacchio di giornale radio dobbiamo spendere 45 secondi della nostra vita per sentire che la Cristoforetti è incinta? La Cristoforetti è incinta! E sti cazzi! A Crucia, a pare, voi vi state incatenati dietro alla notizia della Gilla. La vera notizia è che Cristoforetti è incinta! Sì, sì! Beh, effettivamente, David, non riesco a capire la notizia. Cioè, ma cosa vuol dire? No, perché credo durante il giornale radio nostro, sì, ma anche di altri, l'ho sentito, c'è... Ma... No, ma c'è la notizia che la Cristoforetti è incinta. Pare non... sì, è stato un simbolo per tanti. Ma chi se ne frega? Tempo, ma chi se ne. Ma chi se. Ma chi hanno ragione questi ascoltatori? Ma Samantha Cristoforetti. Scusa, ma noi che cazzo ce ne frega? Ma noi che cazzo. Ma a noi cosa ce ne frega se è incinta la Cristoforetti? Sì, no, oggettivamente. Interesserà a Fazio, forse, che l'ha ospitata. No, interesserà al marito. Questo ma pare che non si sa nemmeno chi è l'autore. No. Del... Sì, pare di sì. Ma allora, così mi scrivono. Ma stai lanciando una cluster bomb? No, mi scrivono, pare che non si. Non lo so, adesso non vorrei dire una cazzata. Perché no, poi... adesso non mettere il zizzania. No, subito. Però ti dico una cosa. A noi, posso dirlo. No, veramente, stai dicendo una cosa che è una bomba. No, cioè, ma che bomba? L'ho letto qua. Qualcuno mi ha detto non si sa nemmeno chi è il. Non lo so, ma non. Adesso ma non... no, ma cosa dici? Dici le cose del web, le cose dei webeti, le cose dei webeti. Le cose dei webeti, dai, ma che. Le cose dei webeti, che pare che tra l'altro è stata un'espressione molto infelice da parte di Mentana, eh? Parecchio infelice. Poi ti spiegherò, perché, perché è una cosa totalmente infelice. È piena di idioti, totalmente infelice, totalmente infelice. Io però lo dicevo da prima che lo dicesse anche il direttore del telegiornale della 7. Quindi... Però, ragazzi, a noi vogliamo dirlo chiaramente e dirlo forte, anzi chiamateci per dircelo. Cioè, chiamateci in diretta a noi con questa frase: a noi della Cristoforetti incinta non frega un cazzo, ma non no, ce ne frega nulla. A me già non mi interessava della Cristoforetti in generale, già non mi interessava. Poi, ma come? Cristoforetti? Vabbè, a me non interessava questa vicenda della Cristoforetti. Migliore, ma l'Italia non mi interessa, vabbè, va nello spazio, fai i collegamenti con Fazio, va benissimo, piace a un certo pubblico. A me non me ne fregava niente, però questa è una mia, come dire, una mia sensibilità, no? Cioè un mio modo di essere, non me ne frega niente della Cristoforetti che va nello spazio, va benissimo, non mi interessa soprattutto dei commenti sulla Cristoforetti. Figuriamoci della Cristoforetti incinta. Incinta la Cristoforetti. Diciamolo chiaro e tondo, numeri di telefono ancora non me li avete dati, datemeli adesso, chiamateci, a noi della Cristoforetti non frega un cazzo. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Oh, tu non sai, caro David, quante persone mi stanno mandando messaggi. Io li inviterei a chiamare questi personaggi, perché poi devono avere il coraggio anche del confronto. Che mi dicono servi di Renzi, siete una vergogna, vi attaccate a una piccola cosa per attaccare i 5 Stelle, gli altri politici sono, rubano più degli altri, alla fine questi qua non rubano per niente, vi state attaccando a piccole cose. Chiamate, chiamate. Allora, Gianfranco da Modena, vai. Anzi no, c'era Giuseppe dalla provincia di Chieti. Scusa, mi stavo dimenticando di Giuseppe dalla provincia di Chieti. Il tuo amico Giuseppe dalla provincia di Chieti. Vai. Uè, vai, dimmi che vuoi. Mi sfida? Ma sfido che cosa? Chi sfido no, che? Sfido no, che cosa? Ma detto, perché non chiamo Giuseppe? No, no, no, non ho detto questo. Ho detto che la voce di un ascoltatore o di uno sembrava quella tua, di Giuseppe dalla provincia. Non so nemmeno chi sei, capito? Cioè, dottorin Cruciani. Che allora, vuoi? Che vuoi da tutto me? Tutto abbronzato? No, non sono abbronzato, Giuseppe, non sono abbronzato. Con il contratto tutto a posto? No, senti Giuseppe, però devi parlare più forte e più chiaro, perché altrimenti non ti sentiamo bene. Ti vogliamo sentire bene, nonostante le cazzate che dici. Con il contratto tutto a posto? Tutto perfetto, non ti preoccupare. 600? 600? Okay. Ma 600 cosa? 600? Cosa? Ma 600.000 magari, cioè magari 600.000. Li meriterei comunque, Giuseppe. Sai che il problema della solitudine è grande comunque. Giuseppe, tu dici che il problema di Giuseppe... Il problema è quello della solitudine di questo personaggio, come di tanti altri. La solitudine. Ascolti. Dimmi. Gli uffici tutti ristrutturati? Ma quali uffici ristrutturati? Giuseppe... No, c'è un disagio nel paese mentale. Mi dici il motivo per cui hai chiamato, Giuseppe? Perché hai chiamato? No, volevo sapere se ha ristrutturato la stalla al maiale che c'ha a fianco, comunista di merda. Comunista di merda, maiale che c'ha a fianco. Anche il linguaggio non cambia, perfetto. Vabbè, Giuseppe, non è cambiato nulla in realtà. No, le volevo dire. Che volevi dire? Che siccome lui rassomiglia a un pappagallo. A un pappagallo, sì. Ancora pappagallo. Al circo Orfei serve un pappagallo. No, non serve. Ai circhi serve la protezione nei confronti di qualche stronzo di animalista che va a rompere i coglioni. Questo serve bravo, ai circhi. Bravo, probabilmente bravo. Potresti fare la guardia del corpo del circo, Giuseppe. Penso no, che no, io già ce l'ho un lavoro, perché io sto lavorando. Ma no, ma tu lavori, adesso che, fatto che tu, fatto che tu lavori mi sembra questo. Edilizia industriale, so che com'è. Questo spiega perché siamo a crescita zero, diciamo. A crescita zero. No, dico questo cosa, meglio di qualunque dato dell'Istat. Cioè, edilizia industriale, che fai? Costruisci le case, quelle che poi cadono col terremoto? No, cosa fai? No. Che cosa fai? Industriale, nella vita, dentro, cosa fai? Dentro alle grandi fabbriche si ristruttura, si aggiusta. Cose che voi nella vita, specialmente il maiale, non ha mai fatto. Scusami Giuseppe, ma tu io credo tu sei conosciuto più per le telefonate che fai alla Zanzara che per il lavoro che fai. Ti abbiamo dato una notorietà. Sì. Credo che tu ti giochi questa carta anche sul lavoro. Sono Giuseppe della provincia. Sono Giuseppe della provincia di Chieti, quello che chiama la Zanzara. Allora, sono andato in Abruzzo quest'estate, caro Parenzo, e un sacco di gente mi ha chiesto: ma chi è questo Giuseppe, questo coglione? Però vedi perché c'è, è nata questa cosa qui del... Chi è questo coglione? Chi è quel cretino della provincia di Chieti che chiama Anita? Ma venga a trovare, non ho la minima intenzione di venirti a trovare. Cioè, non sei nemmeno, non sei nemmeno simpatico, capito? Cioè, non sei simpatico. Ma non sono simpatico, questo, diciamo, a lei deve interessare relativamente. Relativamente, allora, relativamente. No. Allora, ascolti. Mia moglie visto la, quella giornalista Cruciani, ma che è sua sorella, l'ha piazzata pure sua sorella là con... No, sorella è giornalista, imbecille. Chiama, passami tua moglie un attimo, che devo capire come fa a stare con una come te. Sì, purtroppo sta all'ospedale. Ma sì, sta all'ospedale, che fa all'ospedale? No, veramente. Che fa all'ospedale? Che fa all'ospedale? Si è fatta un'operazione. Sì, vabbè, mo tutti operati, tutti in ospedale. No, no, vabbè, Giuseppe, ti assisto. Mi dispiace moltissimo. Ti saluto, a me non me ne frega un cazzo. Ti saluto, Ciro dalla provincia di Salerno, dai. Uè, Giuseppe, buonasera Parenzo. Dimmi, buonasera, Ciro. Cruciano. Dimmi, Ciro. Devi, dovevo dire una cosa. Prima della pubblicità, Cruciano, ti avevi detto una cosa, che parecchi ti avevano chiamato, che tu l'avevi ispirato a pisciare nella... No, non ho detto questo. Ho detto che... Parecchi che erano preso questa ispirazione e lo facevano anche l'Oddi. No, io non ho detto, può darsi pure che comincerò a fare... Può darsi pure che comincerò a fare una gara... No, per l'amor di Dio, Allora, che volevi dire? Io faccio assistenza domiciliare 5-6 anni fa, io avevo un utente che è morto 3 anni fa, che quando gli fa... Io e la banante faccio assistenza domiciliare con il comune. Sì. Quando lo lavava un paio di volte, mentre gli facevamo la doccia, lo schifo assurdo, e mi sei venuto a mente tu, e mi ha già visto a ridere. Sono contento che siete tornati tutti e due. No, ma non ho capito, Ciro, qual è, non ho capito bene. Sei contento che siamo tornati, e questo siamo felici anche noi, no, caro David? Però la voglia che voglio dire, tu fai l'assistente domiciliare, che fai? Faccio assistente, dovevo mandato dal comune. Mandato dal comune. E allora che cosa è successo? Quando io avevo un anziano che parecchio più volte per sfregio, quando noi lo lavavamo, io e la badante privata, cacava mentre gli facevamo la doccia, lo faceva. Vabbè, d'accordo, però adesso scusami, questo è... Lei scusi, perché ci dettaglia di questo? Di questa testimonianza? Come quello di prima. No, però scusami, non capisco qual è il senso di questo racconto. Ci stai dicendo, sei un assistente domiciliare, provincia di Salerno, Ciro. Ci stai dicendo, anche ridendo, che c'è un anziano che voi curavate, che voi assistevate. Datemi del tuo, mi preoccupo. Sì. No, che voi intendo, tu e l'altra badante. Chiaro che ti do del tu, che ti do del lei, Ciro, dalla provincia di Salerno. Adesso non esageriamo. Caro Ciro, questo cliente, questo paziente, questo anziano, se non ho capito male, credo di non aver... Cagava dentro la doccia, non ho capito. Sì, mentre lo lavavamo, lo faceva apposta. Onestamente. Ma che ne sai che lo faceva apposta? Magari è una... No, che lo conoscevamo bene, era proprio uno sfregio. Ma perché dovrebbe... Non ho capito, scusi, perché lei ritiene che questa sia la notizia principale da commentare no, oggi? No, era una parentesi, anche per salutare. Ah, una parentesi, ho capito. Una battuta così, no? Non è una battuta. Cioè, non faccio come quello che ha chiamato prima, che vi piglia male parole, pure a povero Parenzo lo chiamano porco comunista, ma ognuno è un animale che vuole, cioè, capito? Ognuno è? Scusi, ognuno c'è un animale che vuole. Cioè, ah, ognuno è un animale che vuole. Cioè, io non è che voglio difendere a Parenzo e a Cruciano, ma sono certi mongoloidi che chiamano, come quello di prima, Mauro D'Amando, la pensano tutti quanti con Parenzo, poverino, può fare una cosa in tuo stomaco, ti dico la verità. Hai trovato un difensore, caro David, Ciro dalla provincia di Salerno. Un autore normale. Aura, direi io. a volte è vero che difende indifendibile, sì. Ma certe volte non è che tiene torto, ma neanche Cruciano, però manco Cruciano, certo, no, assolutamente, assolutamente. Modi, però se segui il ragionamento non è che tenete torto, sia uno che l'altro, siete come Totò e Peppino, come che ne so, come non so se scusa, tu sei interessato sei interessato alla notizia che la Cristoforetti è incinta? Hai fatto una cosa buona, Piatto Pesce, scusa, Piatto Pesce, ho capito, amico mio, però non è che comunque sfiatano le femmine del maso incinta, non ho capito, sfiatano, non ho capito, cioè si è accoppiata, questo non c'è dubbio che si sia accoppiata per non è necessario con le nuove tecniche, si può anche fare senza sì, ma che vuol dire che vuol dire sfiatare, non ho capito, sfiatare Sfiatare, quando uno si accoppia, detto un termine un poco dialettale nostro. Che vuol dire spiatare? Cioè, non quando uno si accoppia, quando fa con l'altro sesso si accoppia, poi ci stanno i froci che fanno la stessa cosa, però si rende conto, però quando cioè, uno che si fanno accoppia, i froci? Non ho capito che fa, questa è come uno quando uno si accoppia, cioè quando va a fare sesso, uno va a sfiatare, capito? Parezzo, questo è il tuo difensore. Ma questo non conoscevo questo slang. E vabbè, uè, Cruciani, Parenzo, vi saluto, un abbraccio a tutte e due, vi ringrazio. Ciao tesoro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Basta, puoi levare sta cazzo di zanzara di merda? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. L'altro giorno mio amico, che è un po' bruttino, mi ha detto: sono depresso, sono brutto, ma che tipo di donna troverò mai? Allora io ho preso le foto di David e di Natania e dico: guarda, questa sta con questo. Ma no, gli è scoppiata la testa, si è montato la testa. Caro Parenzo, tiene una moglie così buona, Natania, che se fa girare la capa a parecchia gente e sta con te. Forse perché tieni i soldi, fai un scema, ti pagano per fare un scema. Tu e Cruciano è più furbo di te, fa meno un scema. Tu fai proprio un scema, proprio ti sei immedesimato proprio nella parte dello scemo. E Natania, ecco perché. Comunque è buona, Natania è buona, faccelo cazzo se è buona. Vabbè ragazzi, perché mi mandate questa roba qui senza l'autorizzazione di Parenzo? Scusa, mi hanno mandato delle cose a tradimento, eh. Cioè questi sono i personaggi che tu ti ritrovi ogni giorno con cui parli, insomma. In realtà non ci parli io mai. Io con questi non parlerò mai, figurati. Gli ascoltatori, senza la mia autorizzazione, senza il passaggio da me, hanno mandato a tradimento, te lo posso giurare, hanno mandato a tradimento queste cose su Natania. Cioè hanno fatto pronunciare il nome di Natania in vano da parte degli ascoltatori. Ora vuoi dire chiaramente che non deve essere pronunciato questo nome? Pena... L'ho già detto ieri, questi miserabili che poi peraltro chiamano ma non hanno niente da fare, spendono i loro soldini perché no, il numero è verde purtroppo, quindi bisognerebbe distinguere tra quegli stupidi che chiamano, bisognerebbe fargli pagare tipo 20 euro a telefonata, così mettiamo a posto anche dei nostri editori, e invece quelli intelligenti gratis. Che tu dici sono un po', tu dici che sono un po' traballanti le casse dei nostri editori, dici? No, dico in generale l'editoria pensavo volessi dire questo. No, in generale l'editoria ha i suoi problemi, hanno tagliato i contributi pubblici purtroppo e quindi per fortuna hanno tagliato i contributi pubblici e quindi bisogna rifarsi sugli ascoltatori idioti. Ecco, questa è la proposta. Senti, allora, De Luca sui 5 Stelle, veramente straordinario. De Luca, il governatore del mondo, ritorna. De Luca era tanto che non si sentiva. Beh, no? spettacolare. Senti che cosa dice, senti. Sfiderei qualunque cittadino italiano a sapere che cos'è questo direttorio. Poi avete visto che si sono moltiplicati i direttori, abbiamo appreso che c'è il direttorio nazionale, poi c'è pure il direttorio romano. Chi sono? Chi li ha messi? Che fa? È veramente, veramente una piedigrotta. Il governatore del mondo è sempre il numero uno. No, senti questa, guarda che è una specie di crescendo, senti. Abbiamo avuto la prima grande vera prova della capacità di governo di questo grande circo equestre che è il Movimento 5 Stelle. Circo equestre. Lei ha capito dove, chi, come si decide, qual è il ruolo di Grillo, di Casaleggio, del direttorio nazionale, locale, di quello interplanetario, di quello... chi decide il ruolo? Devo dire la verità che è veramente il numero uno assoluto. Continua De Luca, sentite, De Luca contro i 5 Stelle, così facciamo incazzare tutti quelli che chiamano e che scrivono: siete servi di Renzi, siete attaccati ai 5 Stelle, mentre nelle altre parti d'Italia rubano a mani basse. Non me ne frega un cazzo di quello che dite, non me ne frega nulla, niente. Quelli candidati dai 5 Stelle, anzi molto spesso nei territori, sono impresentabili. Sono improbabili, sono in qualche caso perfino esteticamente sgradevoli. La verità, ma che perché però... esteticamente? Cosa vuol dire? Perché? È bello che ogni volta che parla dei 5 Stelle poi c'è qualcuno del PD che dice: no, De Luca ha esagerato, De Luca si deve scusare con i 5 Stelle, si deve scusare con Di Maio. Ma quello... esteticamente sgradevole. No, ma quello dai. Se ne sbatte i coglioni, cioè quello se ne sbatte, più lo criticano perché parla così dei 5 Stelle, più continua, cioè non gliene frega assolutamente nulla. Senti quest'altra cosa che dice su Di Maio, poi è scatenato sempre su Di Maio, lo sai. Sentiamo. No? Io vorrò sostenere la mia tesi che l'onorevole Luigino Di Maio è uno sfaccendato, un furbastro, anche se si presenta come un chierichetto, è un furbastro che non può governare neanche un condominio. Vabbè ragazzi, andiamo a Gianfranco da Modena, fra poco se riusciamo a fare un collegamento, Parenzo, beh, fra poco sentirai, ospite spesso alla Zanzara, ma è stato protagonista sulla passerella di Venezia, non quella che si è tolta che si è messa mezza nuda per fare esibizionismo, ha fatto benissimo per carità, perché ha ottenuto risultato e chi si è scandalizzato è un cretino, però un altro che è stato protagonista a Venezia, vediamo se lo becchiamo naturalmente, vai Gianfranco, vai. Sì, ciao, buonasera. Io da non elettore del Movimento 5 Stelle devo dire onestamente che tutta questa cosa qua però mi fa venire voglia di votarli. Perché? Così. Perché se dopo tu, l'hai già detto prima su tutto quello che ti hanno telefonato e ti hanno detto, sì, ma sì. Voglio dire, se una signora come la Raggi ha tanti problemi per una cavolata di questo tipo, E cosa doveva fare? Cavolata secondo i 5 Stelle non è, perché se tu non sei trasparente nei confronti degli elettori, questa è una responsabilità altissima secondo i canoni dei 5 Stelle. Gli altri politici possono mentire, la politica è anche menzogna. I 5 Stelle hanno fatto dell'onestà, trasparenza, praticamente un cavallo di battaglia. Per cui qualsiasi cosa poi succede che scalfisce questa roba qui, non è una piccolissima cosa, sempre secondo il loro criterio. A me, se quella sapeva e non ha detto dell'avviso di garanzia, non me ne può fregare di meno, non è una responsabilità importante. Secondo i 5 Stelle, i loro seguaci o chi pensa di votare 5 Stelle in maniera quasi fideistica, adesso uso questa parola, Parenzo, che è anche difficilmente traducibile per un pubblico. Allora io dico una cosa, secondo me dovrebbe essere una colpa gravissima, capito Gianfranco? È questo il senso? Sì, secondo me bisogna anche vedere qual è il contesto, cosa è successo. Il contesto è che ha tenuto nascosta una cosa importante, cioè un assessore indagato, punto e basta. Lo sapeva dalla fine di luglio e non lo ha detto. Poi lasciamo pure perdere il fatto che un assessore indagato, secondo i criteri di 5 Stelle, dovrebbe essere pure una cosa che fa dimettere l'assessore dopo un secondo, secondo quello che hanno sempre pensato degli altri. Ma lasciamo perdere questa cosa perché ormai è passata in cavalleria questa cosa, sembra, Parenzo, no? Prima dicevano i politici indagati devono andare a quel paese, adesso invece dobbiamo vedere... Dobbiamo valutare, fare. Non capisco perché se la prendono con noi, ma non lo so perché se la prendono. Stanno scrivendo sul blog di Beppe Grillo in questo momento che i 5 Stelle, la base stessa che chiede ai 5 Stelle di fare chiarezza, chi sono quelli? Ma che ne so. Andate a vedere sul blog di Grillo. Sul blog di Grillo, dove si parla di tutt'altro, perché se aprite il blog di Grillo si parla dell'euro oggi, che è una cosa lunare. Ha fatto blog Beppe Grillo, guarda, blog Grillo. Blog Grillo. Sì. Da 8 ore il titolo del blog è L'euro è il problema dell'Europa. E vabbè, sai, come è l'euro. Così. Fermi tutti, collegamento con Venezia, aspetta. Allora, io non so che cosa deve fare ancora quest'uomo, perché ha fatto film, ha fatto il produttore, è l'uomo, uno dei simboli, dei brand dell'Italia nel mondo. Credo di aver capito. Allora, è uno dei brand. Escludo che sia Sorrentino. No, che c'è? Sorrentino è un regista, un bravo regista che vuole fare adesso pure un film su Berlusconi. Abbiamo un attore, no? No, ma perché non è un attore. Un attore, cioè, a parte che è un nostro amico, ma è un brand italiano nel mondo. Ma questo non lo dico, ma lo dico ironicamente come al solito, lo dico perché è la verità. Sì. Cioè, non è che esci dall'Italia, dice esci tu, Parenzo, dall'Italia. Credo chi cazzo, di aver capito. Chi cazzo ti conosce a te? Cioè, se tu vai. Sì, man, sì. Se tu esci dall'Italia, se tu esci dall'Italia, sì. Chi cazzo ti conosce? Nessuno. Non è che dici David Parenzo. Sì, vabbè, Parenzo, c'è una città in Slovenia, non so dov'è. Ah, no, ma è in Istria, eccetera. Cruciani un po' di più, diciamo, legge un po' di sì, più. Può essere. Poi di più, dice Cruciani, ah sì, Zanzara, tu fai Zanzara, trasmissione fa scherzi. Ah, il perverso che non si lava, tutto sporco. Sì, beh, è vero, certo, sì, ma se tu dici Rocco Siffredi, no? Pure se vai, che ne so, in Kazakistan probabilmente lo conoscono. Rocco, è così o no, caro amico mio? O no? In Kazakistan sicuramente sì. Nel regno del Kazakistan sì. Ciao Rocco, come va? Come va? Bene, ragazzi. Allora, ma che molto devi bene. Fare di più? Hanno fatto un documentario su di te, sì. Ma che cosa devi fare di più? C'è un documentario su di te. Hai fatto i film, le cose, il produttore. Sei un brand italiano. Ma ormai che devi fare? Basta, ritirati finalmente. Cioè, passa nel dimenticatoio, goditi i soldi che c'hai. Basta, c'hai 52 anni, che devi fare di più? Boh, io non lo capisco. Ricomincia una nuova vita. Come? In che 52 senso? 52 inizio. Ah, 52 si ricomincia da capo? Sì, si ricomincia. Si ricomincia. Cambio nome, Siffredi Rocco. Sì. Senti una cosa, no, ti volevo chiedere subito, hanno presentato adesso a Venezia questo documentario due francesi su di te, però lasciamo perdere il documentario che invito tutti, quando uscirà, non so quando uscirà, a precipitarsi fino a ottobre, benissimo. Allora, tu hai detto una cosa in questi giorni in cui tutti ti chiedevano delle cose scontate su di te, solo noi ti chiediamo le cose vere, le cose reali, gli altri ti chiedono tutte domande scontate, hai detto il futuro è bisex, cioè capito Parenzo? In futuro saremmo tutti bisex, cioè anche Parenzo, anche Parenzo in futuro sarà bisex. Parenzo, questo adesso io Rocco ti ha dato questa notizia. Rocco ti ha dato questa notizia, cioè sì, che... non lo sapevo, guarda, lo escludo però. Io ho fatto un'analisi un po' con la nuova generazione, alle vecchie, alle donne, il passaggio, ma non solo nel porno, nella vita di tutti i giorni. Vedo che le donne sono di più in più scontente, sì. Si stanno organizzando da sole, sia sui set che fuori dal set. Vedono di più in più film lesbo, sì. E la nuova generazione, il maschio, sì. Ha sempre più paura e la donna è sempre più aggressiva. Forse dal machismo di una volta adesso passeremmo noi a diventare femmine e le femmine a diventare, cioè, tu stai maschi, dicendo, ma lo noi penso sinceramente. No, tu stai dicendo che il futuro non ci sarà più, capito, l'uomo, la donna, c'è, cioè, l'eterosessuale, l'omosessuale, no, ma saremo tutti un po' bisex. All sex. Bisex non vuol dire un cazzo. All sex. Saremo tutti all decidi sex. Decidi di andare con chi ti pare, fai quello che ti pare. Guarda che è la nuova generazione che lo dice. Se tu guardi già la moda, come si vestono, come si pongono, sì. Non c'è più sessualità. Non c'è più. Parenzo, che dici? No. Anche tu vai verso questa, cioè per esempio i tuoi figli maschi, sì. Maschi probabilmente saranno, siccome sono molto piccoli, nel futuro, in un lontano futuro, molto probabilmente saranno bisex. Arrenditi di fronte a questa cosa, non è una saranno all sex, e anche tu forse tra 10 anni anche tu forse sarai all sex, cioè, no. Ma io sicuramente vado. Dici no, di no, non credo. Io l'unica cosa che puoi escludere. Per l'azienda, frequento un'azienda sola, ma un poco male, insomma, non. Vabbè, ma guarda, l'azienda, quello che fai nella tua vita privata non gliene frega un cazzo. No, questo no, questo l'azienda è nel senso, frequento soltanto un'azienda, cioè un solo un'azienda, ok, la tua figlia, in quel okay. Senso lì, capito? Non, sì, no, non frequento più aziende. Usa ogni tanto, ecco. Rocco, delle espressioni un po' sue, Parenzo, molto particolari. Sì, particolari, no, particolari. Senti una cosa, ma tu hai mai provato un uomo? Sì. Ma quando ero nell'atto della dipendenza totale ho provato tutto, l'ho sempre detto, l'ho detto anche nel documentario. Hai visto il film tu di Fassbender? Shame. Beh, come non l'ho visto, ecco, certo. Io quando ho visto quel film sono rimasto una settimana senza dormire, perché sembrava che si avessero prestato quel personaggio a me. La cosa più schifosa che mi è successa nella mia vita, totale più schifoso, non è il rapporto con l'uomo, con la donna, col trans. Che non volevo è che lui, mentre giocavo con mio figlio, mi prende, mi tira via, sto giocando con bambini piccoli, chiamano suo padre, mi tira via e mi dice adesso ti porto a fare qualcos'altro. È quello che è negativo. Quello che ti porta a fare lo decide lui. Mm. È lì che ti dico che la dipendenza è pesante. E in quel film lì ho rivissuto queste parti qua che... Tu l'hai visto, Shame, Parenzo? No, ma non l'ho parte... visto. Molto famoso, ma non l'ho visto, purtroppo. Ma la parte più negativa sì. non è quando lo fai. Quando ritorni. Quando ritorni, guardi i tuoi figli sì. che ti dicono, papà, ho quasi finito, ma perché non sei stato con noi? E lì tu ti vuoi sciogliere, amalgamare, diventare una super merda da metterti nel cesso. Ecco, quello lì, tutto questo passaggio qui l'ho rivissuto in quel film e ho detto, ragazzi, ma qualcuno ha visto la mia vita oppure questa è la vera dipendenza da sesso, dove è lui che decide quello che fa? È lui, Parenzo, lui. Vedi, lui dice, non è che dice cazzo, dice lui, lui, lui. Ah, è lui, sì. Beh, lui, quello che lui dice è il diavolo, perché lui dice di avere tra le gambe il diavolo. Sì, ma di diavolo. Il diavolo è quando è lui che decide, non sei tu. Ma ogni tanto tu ci parli? Ogni tanto ci parli? Ma io ci ho convissuto tutta la vita. E no, col diavolo ci parli, con lui ci parli? Come ci parli? Con lui, no? Col tuo uccello ci parli? Ma io sì. Ma io sì, perché ci ho vissuto. E che gli dici? Che gli dici al tuo pisello? Oggi non mi abbandonare, portami avanti, non mi mollare proprio adesso, ma non sto scherzando. Cioè, veramente, cioè, non mi mollare. Ma come ci parli? E ci parla, evidentemente. Ragazzi, non tutte le fighe sono uguali, non tutte le mattine sono uguali, non tutte le volte ha voglia di svegliarsi come si fa sempre, non tutti i buchi, le ciambelle. Certo, dunque tu lo inciti qualche volta, cioè lo inciti a darti. Ragazzi, a volte gli dico oggi c'è da lavorare duro, quindi muoviti e dammi una mano. A volte sì. Certo. Senti, ma è vero che sei stato ricoverato per abuso di masturbazione? Sì. Ma quando? Ho avuto una cistite a 13 anni mamma mi ha portato all'ospedale a Lanciano, reparto di urologia di Lanciano, me lo ricordo ancora oggi per la vergogna, perché mi masturbavo talmente tanto, ma perché? Perché a 11 anni, 12 anni si faceva il pilone a scuola, si marinava la scuola. Cazzo facevi tutti i ragazzini e io organizzavo le gare di masturbazione, che si faceva più seghe delle gare record. E tu sai che poi la masturbazione reale più lo fai e più hai voglia di farlo. Questo bel momento in cui a chi lo dici e quindi più lo fai più hai voglia fino a quanto sei arrivato, scusa, una cistite cronica. A quanto sei arrivato? 10, 15, 11 volte, no, 11 volte in una mattinata di 5 ore. Mamma mia, ma ti è successo anche da adulto oltre che da ragazzino qualche volta? Sì, fino a qualche anno fa mi masturbavo regolarmente. 10 volte al giorno, quanto? No, ma se ce l'ha. Scopavo 10 volte al giorno. Vabbè, quello sì, certo. Sempre meglio. Senti, no, c'è un episodio incredibile della vita di Rocco, che è, credo, raccontato, Parenzo, in questo documentario meraviglioso. Che non ho visto, ma ufficiale. Ma io vorrei scrivere, non solo sono un biografo, io, se Rocco me lo concederà, prima o poi ci mettiamo al tavolino e scriviamo, ma non quello che hai già scritto, poi la biografia definitiva, quella definitiva. Però, Rocco, ti volevo dire una cosa. È vero che tu, a un certo punto, tua madre voleva che diventassi prete, l'hai già raccontato. C'è il funerale di tua madre, che cos'è che hai fatto? Sei stato con un ultra settantenne, che hai fatto? Ma sì, mazza, l'hai visto il documentario tu? Questo lo sai che solo chi ha visto il film può vederlo, non lo sapeva neanche mia moglie ieri sera, che vergogna. Cioè? In prima proiezione, mia moglie l'ha vista a Parigi e non gli avevo mai detto, i miei figli hanno voluto assistere al film. Ti dico solo che non ho dormito la notte, ancora devo capire come sono rimasti. Cioè? Però tu sai, tu mi tua moglie è rimasta sconvolta. Tu mi conosci un po', quando io mi svuoto, quando do, non faccio mai le cose a metà. Certo. Mi sono svuotato nel documentario perché sono così. E ho raccontato dei particolari che nessuno sa. Cioè, quando è morta mia madre, la signora che abita su di noi, a casa nostra, più o meno dell'età di mia madre, qualche anno in più anche. Cioè quanti? Quasi 70 anni. 70 anni, e allora? Quasi 70 anni. Niente, mi ha abbracciato, ho voluto salutarmi perché io ripartivo. Mi ha abbracciato, abbiamo pianto in due, a un certo punto mi è partito. Cioè? Ti è partito l'embolo? Non lo so, mi stringeva, questo sì, no, perché dal viso, cioè non lo so, mi è partito l'embolo totale, forse erano 2 mesi, però devi sapere che ero attaccato a mia madre io. L'ho vista vomitare sangue mattina e sera, fino a quando ci ha lasciato. era una condizione di stress pazzesca. Mi sono alzato, l'ho tirato, cioè c'ho un cazzo durissimo, l'ho tirato fuori, e l'ho messo in bocca. A questa? L'ho messo in bocca, si l'era. A settantenne? Settantenne? Sì. Gli ho sborrato in bocca. No, adesso sì, insomma, sì, questo ho capito. Vabbè, non poi... sto scherzando. No, ma ho capito, vai, ho capito, ma insomma, adesso non andiamo troppo nei dettagli, amico mio. L'ho rimesso dentro, mi sono vergognato a morire e sono andato via. E questa? Però... Come sei rimasto con questa? Mi ha guardato, ho gli occhi suoi, gli occhi suoi che mi guardano mentre vado via, neanche un po', c'è tutta comprensione, cioè secondo lei sono stresicuro, tornavo dietro, faceva finta che le avevo dato un bacio. Niente di che. Ma si sarà resa conto di qualcosa. Non è che uno fa le cose così. Ma è normale che si sia resa conto, però ha capito pure che magari era una condizione di shock. Ma la tua moglie, di fronte a questi racconti, che dice? Cioè, questo è il punto. Che dice nei confronti di queste rivelazioni sulla tua vita? Non era scioccata, l'ha visto come qualcosa di estremamente. Un bisogno d'amore da parte di mia madre, qualcosa di. Con bisogno d'amore, tua madre era morta. Mia moglie è molto. Ha capito che non c'era una perversione legata a un atto sessuale. Ma come finirà tutto questo? Tu ti sei messo, ti sei fatto. Come finirà? Una volta mi hai detto: io morirò sul corpo di una donna. Adesso magari me l'hai detto così, no? Cioè, voglio morire sul corpo di una donna. Speriamo su quello di mia moglie, almeno quello. Almeno quello. Cioè, almeno quello. Capito? Tu pensi che finirà così? Cioè, che tu morirai così? Cioè, Spero che se devo finire in qualche modo di finire così, sicuramente spero di finire prima che finisca il mio corpo, questo è sicuro, cioè che non finisca il mio corpo prima che io, spero di finire prima nella testa, perché restare imprigionato nel corpo e essere... Cioè non vuoi invecchiare? No, assolutamente no. Non vuoi invecchiare? Ma capito, pensi anche di farla finita da solo? No. No, assolutamente no. No, ma sono integro. Tu sei a favore dell'eutanasia, per esempio? 100%. Ma cioè, se tu stessi male diresti di portarti in Svizzera a farti o da qualche parte a farti una punturina. No, farei molto più veloce io. No, io apprezzo molto quello che ha fatto il regista quando si è buttato dalla finestra. Apprezzo molto di Monicelli, più. Monicelli, non mi ricordo il nome, mi scuso. Però apprezzo molto più un gesto così. Sì, apprezzo molto più questo. Il fatto di farlo diventare una sorta di terapia mi fa un po' cagare. Però vedi, Parenzo, cioè lui è capace, Rocco, di passare da descrizioni molto crude di quello che ha fatto, per questo è un grande, di quello che ha fatto, diciamo, nella vita, no? Quell'episodio che ci ha raccontato in maniera molto cruda nel funerale della madre. E però al fatto che dice io sì, sono a favore di quello che ha fatto Monicelli, il regista che si è buttato dalla finestra, cioè ha praticamente detto al mondo... Questa è una battaglia condivisibile, quella sulla eutanasia. Vabbè, certo, non quella di farsi le settantenni, che c'entra, quello non è una battaglia, è un racconto. Questo non entra nel merito. Quello è un racconto, che c'entra, quello è un racconto. Però io non me la sono fatta. Vabbè, sì, insomma, è quello che hai raccontato. Cioè, adesso non torniamo su quello. Senti, ma tu riesci ancora a fare sesso con tua moglie, per esempio? Alla grande, è la cosa più bella che ho. Ma come fai? Come fai questo? Perché semplicemente ti dico delle parole vere, perché amo mia moglie. Amare, ragazzi, per far bene se sei una donna non devi mai smettere di amarla e devi capire che devi usare sempre fantasia, devi dare. Io sono, lo sai perché sono fortunato, man? Perché? Sono generoso di natura. Ma quello sì, d'accordo. Ti devi impegnare di testa. Nonostante l'abitudine, ti devi impegnare. E non solo di testa. Va bene, man, ciao, ti abbraccio, grande, ciao. Cruciani, io non sono per la monogamia. Perché non ci mettiamo insieme? La zanzara. Allora, mia moglie mi sta dicendo che la cosa più bella non è pisciare in doccia. Pisciare e lavarsi i denti in doccia. Cruciani, quando stasera ho pisciato sotto la doccia, ti ho pensato. Io piscio nella doccia, scorreggio negli ascensori e ne sono fiero. Cruciani, una pisciata del lavandino in diretta dal garage, siamo al top. Cruciani, ma perché non parliamo dell'ipocrisia che c'è dietro il lavarsi le mani dopo aver pisciato? Amico mio! Ho passato l'estate a pisciare nei lavandini. Beh, siamo al top. Pezzi d'Italia che chiamano alla Zanzara, soliti numeri, ridiamoli, ridiamoli. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Allora, io direi di sentire Antonella da Brescia. Vai Antonella, vai. Ciao Giuseppe. Ciao, dimmi Antonella. Beh, io sono abbastanza allibita. Allibita da che cosa? Beh, capisco che puoi essere allibita. Dai tuoi ospiti. Sì. Beh, capisco che le parole di Rocco Siffredi sono molto forti. No, Rocco. E che cosa? Non ho cosa? Gli ascoltatori che ti chiamano in queste ultime settimane, prima allora? Delle vacanze. Perché a parte che sono solo uomini che telefonano, ma no, ci sono ti chiamano ben poco. Ci sono un sacco di donne, comunque ci sei tu adesso che parli, per cui Antonella, no, vai. No, comunque ti devo dire due cose. Dimmi. Intanto, cioè, queste persone qua veramente a dire quanto sono, come dire, volgari a dir poco. Ma chi? Però, chi in particolare? Chi? Ma adesso non è che mi resta in scusa, ma non, non la fai la pipì tu sotto la doccia? No, te? Non ho capito. Ascolta. La fai o non la fai? Dire, no, io cioè non faccio la pipì sotto la doccia, però senti. Vabbè, ma non è un problema. Può interessare a qualcuno. Ma interessa poi, moltissimo, interessa un'altra moltissimo. Un'altra cosa che ti voglio dire. Dimmi, scusami, dimmi. Il livello della trasmissione è proprio inascoltabile. Molto basso, sì, infatti il motivo per cui tu chiami è per alzarlo. No, io volevo dirti questo. Tu so che sei a favore della prostituzione. Sì, non è che sono a favore. Non è che sono a favore. Gli uomini che chiamano, che sì, ti chiamano, sono quelli che vanno con le prostitute. Stiamo parlando della schiavitù, eh? Ma non è vero. Ma sei un po' parenziana. Adesso Parenzo si è assentato per un attimo come al solito. Sei tu che invece dovresti essere una persona più moderna, sì, moderna. Io sono talmente moderno che penso che la prostituzione sia una cosa legittima e penso che la prostituzione sia una cosa addirittura moderna, contemporanea. La prostituzione non è una cosa legittima perché è la tratta dell'uomo, dell'essere umano. Dipende, per quello c'è la polizia, le indagini. Vai a vedere nei paesi. Ma che c'entra i bianchi e neri con la prostituzione? Dai, è su. È uguale, la stessa cosa. Vai a vedere nei paesi dove è legalizzata, la Germania, sì, eccetera. E che, siamo al terzo mondo, non ho capito. No, che cosa ti raccontano le persone? E che raccontano? Che raccontano? Spiegami, che raccontano? Io ti invito che raccontano in Germania? Non mi sembra che sia, non mi sembra che ci sia la cosa, dai. I clienti veramente usano queste donne peggio delle cose, non come i clienti vanno a scopare con le clienti, con le prostitute, amica mia. Quello, quindi il livello, ma cosa fanno? Cosa vuoi che facciano? Ma cosa vuoi che facciano, Antonella? Come quelle persone che chiamano da te. Quindi, ma cosa c'entra? Scusa, Antonella. L'abbassamento dell'essere umano. Ma non ho capito perché uno che va a puttane, secondo te, è un delinquente, un poco di buono, un pervertito? Un, che cos'è uno che va a puttane? Spiegami. Sì, perché comunque sfrutta una situazione, un corpo che. Di debolezza perché comunque ha problemi economici o addirittura anche altri problemi. Beh, sicuramente ecco, cerca del denaro attraverso il proprio corpo. Sicuramente quella persona perché la considera un oggetto. Iside, dove sei, amica mia? Iside, dove sei? Iside da Chiasso, dove sei? Rispondi a questa signora. Iside. La conosci Iside, Antonella? Sì, la conosco, l'ho sentita alcune volte. Questa trasmissione è talmente brutta che tu però la senti, conosci Iside, eccetera, eccetera. Però sì, ma certo, perché io ti ascolto da tantissimo tempo, però. però Antonella, Antonella, scusa. Non mi piace più. Va. Sì, vabbè, non ti piace più, va bene, questo lo dicono tutti. Però Antonella, ti sono piaciuto qualche volta? No, nel senso che non si va avanti nelle... Però scusami Antonella, amica mia, adesso tu hai sentito un sacco di prostitute che sono intervenute in questa trasmissione, le quali liberamente cerco per, certo, per cercare... Non ci credo, posso dire che non ma ci Ma come credo non ci credi? Isi, amica mia, vienimi in soccorso. No, allora, no, Antonella, no, ti assicuro che... No, non sono sincera. Ci sono un sacco sincera di prostitute in giro per l'Italia, un sacco di persone che lo fanno semplicemente per guadagnare dei quattrini, non perché sono... Certo, sono costrette, tra virgolette, dal fatto che vogliono guadagnare dei quattrini e approfittano di una dote che hanno, cioè il loro corpo, ascolta, la loro spacciataggine, la loro puttanaggine, eccetera, eccetera. Giuseppe, in Svezia, Svezia che succede? Hanno deciso di... la Svezia, sì, va bene, ma in Svezia possono decidere quello che vogliono, di punire i clienti, va bene, è una vecchia storia, addirittura c'è un paese, non so... Chiediti perché, vabbè. È legato alla dignità della persona. In Svezia fanno tante cose sbagliate, in Svezia è pure un paese dove le mogli vengono picchiate, le donne vengono picchiate un sacco dagli uomini, figuriamoci. Questo. È la stessa cosa, anche i clienti che vanno con le prostitute fanno così, eh? Senti, amica mia, gli sputano addosso, le picchiano, le consigliano. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma che dici? Ma che racconti? Ma non sai? È così, ma così che fai? Così. L'assistente delle prostitute? Hai fatto la prostituta? Non credo, no? Mi spiace, ma conosco delle associazioni che seguono purtroppo queste ragazze che poi... Vabbè, quelle che seguono le associazioni evidentemente sono ragazze che hanno di... Scusami Antonella, quelle che vanno alle associazioni sono evidentemente delle persone che subiscono delle cose, altrimenti non andrebbero alle associazioni, farebbero le mignotte, punto e basta. Scusa, se uno si rivolge alle associazioni, perché evidentemente subiscono, che ne so, ricatti da parte dei papponi, qualche volta vengono picchiate dai papponi, ma no, è una cosa bruttissima, per quello c'è la polizia, per quello c'è la polizia, amica mia. Come non c'è la polizia, ci sono le indagini, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque io ti abbraccio fortissimo. Grazie, Giuseppe. Ti abbraccio, ti do anche un bacio in fronte, te lo posso dare un bacio in fronte? Sì, va bene. Un bacio in fronte. Quanti anni hai, Antonella? 52. Buono, eh? Non è male, 52. Una bella età, 52, non è male. Sì, bellissima, sono felicissima, sono sposata, contentissima. È stupendo. Tuo marito dov'è? Tuo marito dov'è? Mio marito è a casa adesso, è venuto a casa per cena, adesso dirà che guarda, che legge i giornali. Cioè, tuo marito legge i giornali la sera e tu stai qui che telefoni alla Zanzara, non ho capito. Sì, perché no, il problema c'è. Lo sa benissimo che telefono, che ogni tanto ti chiamo, ma... Ma da pazzi, incredibile. Che dice che fatto che chiami la Zanzara ogni tanto? Che dice? Che sei malata, che sei matta? Smetti di ascoltare quel pervertito, smetti di ascoltare quel pazzo. No. Lui è favorevole alla Zanzara. Tuo marito. Siamo tutti e due, però anche lui la pensa un po' come me ultimamente. Cioè... Non va bene questo, pensare allo stesso modo. Bisogna che ci sia un po' ogni tanto di frizione, bisogna che ci sia ogni tanto qualche ruggine, no? Se no, altrimenti come fate la sera a letto poi, se non c'è qualche litigio? Cioè, quanti anni? Naturalmente, guarda, lo immaginavo che arrivavi lì. Da quanti anni sei sposata, scusa? 26. 26, amica mia. 26 anni, è tutto finito dopo 26 non anni. È vero, assolutamente è tutto finito, no, amica mia. Lo dici tu, però perché hai queste idee? Ma a 26, dopo 26 anni, ma dopo 26 anni che devi fare? Dai, su. Vabbè, però ognuno... Non lo vengo certo a dire a te. Vabbè, potresti anche raccontarlo, però dopo 26 anni come il sesso con tuo marito. No, guarda, assolutamente. No. Però vi voglio bene. Vi voglio bene tutti e due. Quanti figli avete? Due ragazze. Di quanti anni? 22 e 18. Ascoltano la Zanzara queste ragazze? No. Peccato, no. Però. Però sanno anche loro che ogni tanto ti chiamo. Dovresti iniziarle alla Zanzara queste ragazze? Ma lascio libere di ascoltare quello che... È buono, sarebbe molto buono. Sarebbe molto... C'è un sacco di gente, ci sono un sacco di persone, 17, 18, 20 anni che ascoltano la Zanzara. Io ogni tanto sento, però non chiamano. Ciao, Antonella. Chiamano pure, non ti preoccupare. Ciao, ti abbraccio, ciao. Ho bisogno di sentire Sgarbone sull'universo mondo, sulla Raggi, sulla Lorenzin che vuole vuole che gli italiani prolifichino, che vuole che gli italiani facciano più figli. Pronto. Vittorio? Sì, eccolo. Come andiamo? Bene, bene. Dove sei innanzitutto, come al solito, in giro per l'Italia, no? Allora, volevo studiare bene l'evoluzione dell'amministrazione Raggi, perché sono stati due terremoti queste settimane. Quello di Amatrice, che abbiamo visto, poi c'è il terremoto, che è molto più grave, di Roma, ma Roma non potrà essere ricostruita, è sepolta, rimarrà sepolta per molto tempo. Però scusami una cosa, qui è successa una cosa clamorosa, cioè questi 5 Stelle che gridano onestà, onestà, onestà, eccetera, e dicono il primo politico indagato deve essere preso a calci nel culo, sono diventati immediatamente garantisti. Non solo sono diventati immediatamente garantisti, ma sostengono addirittura una cosa incredibile, cioè la necessità di mentire, quando un loro politico è indagato, che per loro è il massimo. Cioè questa Raggi sapeva che un suo assessore era indagato e non ha detto nulla, lo ha detto solo a Di Maio, a poche persone, il direttorio. Ma che succede? Beh, intanto anche per loro l'indagine è appunto l'indagine, però è vero che la partenza dell'amministrazione, io l'ho subito stigmatizzata quando ho visto che insistevano per cambiare i nomi delle cose. Cioè? E quindi chi cambia, non so, la cultura non c'è più, si chiama crescita culturale. Sai come si chiama l'assessorato all'ambiente? Sostenibilità ambientale. Quello della mobilità dei trasporti si chiama Roma che si muove. Poi c'è anche l'assessorato alla persona. Se tu hai un turbamento, hai una malinconia, invece di andare dal pretero, vai dall'assessore alla persona. Cioè, questi sono proprio vuoti come le zucche. Ma te questa Raggi, quando la vedi, che cosa ti ispira? No, Parenzo, anche qui, cioè, cosa ti ispira? Inadeguatezza. Che è a un certo punto presa da una forma di isteria del potere, si dimetta. Quindi credo che sarà all'opposto di Marino. Lei, come incompresa, dirà: non mi avete capito, me ne vado. Addirittura. C'è in lei l'aria, sì, lo sdegno, c'è un elemento di sdegno che secondo me la prenderà quando sarà al centro, come sta continuando a esserlo, di una serie di cose che evidentemente non sono colpa sua, ma sono colpa della incapacità strutturale proprio. Senti, a proposito, allora, non ti ho chiesto nulla invece sulla vicenda dei figli. Cioè, qui c'è un ministro che ci dice quanti figli dobbiamo fare. Cioè, tu come che... la Raggi anche lei. Come la Raggi, scusa, l'ho capito. Se ne deve andare. No, io non dico che se ne deve andare nessuno, ma dico un'eredità di Berlusconi, che era culo e camicia con Berlusconi, come la Lorenzin, è diventato il ministro della sanità del governo Letta, del governo. Ma perché? Si alza la mattina e dopo che hanno detto per tant'anni, a noi, anche a te, immagino che non possiamo non metterci il preservativo, che a me sembra una forma così, se tu hai un dubbio su una persona non la scopi. No, preservativo, allora col preservativo non si genera. Quindi lo stesso ministro che ti consiglia il preservativo ti dice di scopare. È la rinascita del cazzo proprio, il caritore nel cazzo nel suo trionfo e finalmente lo puoi usare per la sua funzione. Prima no, prima lo devi mettere col cappuccio. Tu non sopporti il cappuccio, in realtà secondo me tu non l'hai mai comprato, cioè non hai mai comprato... No, non ho mai pensato di comprare un preservativo, infatti pur avendo sperimentato molto il campo non mi è mai capitato nulla. No, ma questo d'accordo, questo però per caso hai avuto culo, hai avuto culo, scusami. Con le mogli, se tu hai una moglie scopri sempre lei, puoi prendere l'AIDS, altrimenti se tu ne fai una e poi scappi sei più veloce tu dell'AIDS, è proprio, cioè, toccare e scappare, toccate, no, questo, scusa, Parenzo, non ho capito questa teoria di sì. È curiosa effettivamente, interessante. Bene, se tu approfondisci su un corpo malato, alla prima non capita niente, capita una su un miliardo, alla terza o la quarta insistendo può capitare, quindi l'unica arma intelligente è toccare e figare, è una cosa, l'ho studiata benissimo. Ma scusa, questo è il rischio massimo teoricamente, questo? No, rischio minimo. Ma come no? Quello è l'opposto di quello che dicono. Più rapporti hai. No, dicono solo delle balle. Rischi più le malattie scopando sempre la moglie una sola persona. Pericolosissimo. Ma scusa, Parenzo, tu sei allora in pericolo gravissimo. No, io adesso non so se Sgarbi faccia parte dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che dice esattamente l'opposto. Che dice esattamente l'opposto. Che dice l'opposto, però approfondirò adesso per tabulas la teoria. La possibilità che tu tragga un danno. Ma prende l'insistenza su una stessa area, se tu invece non insisti su nessuna, su tutte sorvoli senza che capi, si chiama volo l'uccello per quello. Comunque la realtà è che tu odi figli, questo è il punto fondamentale. Invece c'è un ministro, ho capito, ma li odi, cioè non sopporti l'idea del figlio. Cioè tu hai mai messo in braccio un bambino? No, hai mai portato? Io mai, non so. Cioè, come Parenzo, o come ho fatto anch'io, cioè portare due pedofili, voi siete chiaramente due pedofili. Cioè, cullare un bambino, no, David? Ma neanche guardarlo. Vabbè, ma sai, ognuno. Cioè, hai mai pulito il culo di un bambino, di tuo figlio? Sì, buonanotte. No, ma che ne so, Parenzo. No, ma solo, Quella no, ma voglio dire, ognuno dà i figli, vedi, io avrò l'ho pulito tante volte dalla cacchina. Ma l'immagine di Parenzo che toglie le cacche a suo figlio, che però, ma ecco, ma non solo quello, anche la pipì, l'altro giorno ho pulito quello piccolo. Ecco, ma non è quello il tema. Mamma io invece mia. Difendo il diritto di Sgarbi di essere padre a modo suo. Cioè, Sgarbi lascerà invece ai figli altro, cioè gli lascerà magari l'amore per l'arte, gli lascerà l'amore per la cultura. Bravo. Sì, d'accordo, vabbè, d'accordo. Poi, però, e poi ci sono però, io non. Non qualcuno ti ha messo, scusa Vittorio, qualcuno ti ha mai, una donna ti ha mai messo in braccio un bambino? Questo è il punto. Ma poi ti fanno fare delle fotografie come se fossi Mussolini con il bambino in braccio, ma no, beh, una donna veramente piange. Una donna X, ma le tue, così, tu un tuo, no, tuo no, figlio. Mai, mai. L'idea di portare, no, esatto, l'idea di portare al parco un bambino, no? No, è un pensiero abominevole per me, un'aberrazione. Tu stai dicendo comunque che è una cosa un po' fascista dire a uno no, un figlio non va bene, ne devi fare due, la fertilità, la donna fertile, eccetera. No, è tutto abominevole, questo sono la Farinacci che indica come creare le piccole italiane e i Balilla. Quindi di per sé la comunicazione è grottesca, però indipendentemente dal fatto che sia grottesca, è profondamente contraddittoria. Perché nel tentativo di corrispondere. Vabbè, ma non è che devono dire non si deve usare il preservativo. Lì il preservativo è per le malattie, mica per la procreazione. Solo per essere sicuro che con chi procrei? Procrei con. Comunque, tu sostieni. Con una che conosci, tu sostieni, con una che conosci. Tu sostieni sostanzialmente che l'AIDS e le malattie venere non esistono. Questo è il punto. Cioè, no, tu, che secondo, te l'AIDS non è, secondo te l'AIDS non esiste? Questo è il punto. No, esiste l'AIDS, ma si è visto poi che alla fine è diventato diverso da come era stato annunciato. Cioè tu non hai paura, non hai avuto paura, la figa non ha i denti per quello, se non hai i denti vuol dire che non è pericoloso, no? Beh, ok, non hai i denti, adesso non è pericoloso, è pieno di gente che ha preso le malattie. E infatti, ma se tu e tutti quelli hanno preso, secondo te hanno scopato delle donne oppure hanno fatto qualcos'altro? Cioè, tu hai mai visto un morto di AIDS totalmente eterosessuale che non abbia avuto una declinazione omosessuale prevalente? Beh sì, non puoi dire una cosa. Dimmi un nome. Cioè tutti gay, tutti gay. Che è morto di figa. Tutti gay. No, non so, pare prevalentemente. Io non conosco un solo eterosessuale morto di figa. La figa non fa danno. Il culo è pericoloso, il culo è pieno di merda, quindi farà sicuramente danno, perché l'AIDS è un passaggio di merda e sangue. Ma no, la merda non c'entra, la merda non c'entra niente. Dai, no, beh, cose che insomma, comunque voglio dire, non è che io discuto che uno prediliga dei rapporti anali, dico che beh, tu non, voglio dire, anteriore il rischio è molto più limitato, perché ed è innaturale, dice, è innaturale. No, non so se sia innaturale, è naturale visto che si può fare, però è pericoloso. E io vorrei sapere che tu mi dicessi. È pieno di persone, è pieno di rigoroso eterosessuale, no? Pieno, ti assicuro che è pieno. Guarda, è pieno. No, dimmi un nome, ma che c'entra i nomi? Ma ti posso dire i nomi di Dario Bellezza, infatti sono tutti legati alla malattia. Però di eterosessuali io non ne conosco uno. Non ne conosci noto. Uno? Non ne conosci no, uno. Neanche voi mi pare. Ma sì, ma adesso di nomi noti no, ma di nomi noti no, ma è pieno di persone, dai. Fatemi una lista di eterosessuali, mi pare interessante come test per te. Eterosessuali, rigorosamente eterosessuali, sono tipo Walter Chiari, Mastroianni, Simenon. Mica sono morti di AIDS questi qua, scusa. Fidel Castro, no, tutti no, Fidel Castro ha scopato 35.000 donne attestate, sì. Non è morto di AIDS. Magari ha usato il preservativo. 35.000. Non credo. 35.000. Sì, vabbè, muore in 12.400. C'è uno che scopi solo donne, non muore perché la fica non avendo i denti non è dannosa. Vabbè. Suggerisco questo come tema della mi tua. Sembra ottimo, mi sembra ottimo. Ciao, però, Vittorio. Vediamo, sì, vediamo, ma io sono sicuro di quello che dico. Ciao, presto, vabbè, ciao. Nuova riforma scolastica. Togliamo l'ora di religione e mettiamo un'ora di zanzara. La zanzara. Italia Morala, Italia Morala, Italia Morala, i fraci li vogliamo, i fraci tutti in campagna, solo le mignotte in centro, tutte le mignotte in centro, tutti a mignotte col taccasi, Italia Morala, Italia Morala. Cruciani, ho una collega con due tette da urlo, vegana, ho rinunciato a lei per fedeltà. Alla zanzara, mi devi un favore, lo sai. Qui c'è gente che va a puttane in Austria e io devo ascoltare la zanzara in queste condizioni. Quasi peggio di Parenzo. Quasi. Ma devo dire, questo è eccezionale. Eccezionale. Adesso Parenzo se n'è andato, non glielo posso nemmeno proporre, però domani conservatemelo, conservatemelo. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Palermo. Sergio, molti mi segnalano che in realtà c'è un personaggio molto famoso che è Magic Johnson, che ha contratto l'AIDS da eterosessuale, ma non c'è manco bisogno di dirlo perché ce ne sono un sacco, per cui Sgarbi ha detto una cazzata, dai, gliel'ho pure detto. Sergio, dimmi. Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo. Volevo dire quello che hai appena ribadito tu, che l'onorevole dottore Sgarbi ha detto una cosa. L'onorevole dottore Sgarbi, dottore forse sì, anzi sicuramente, ma onorevole no. Ha detto che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io sono un medico e bisogna stare allerta perché l'AIDS non è scomparso ed è possibile contrarlo anche con un solo singolo rapporto. Questo secondo me questo è abbastanza chiaro, Sergio, è chiarissima questa cosa. L'ha sottolineato specialmente in una trasmissione popolare come la Zanzara. Vabbè, ma l'ho detto, dai, uno che dice che non c'è un eterosessuale che ha preso l'AIDS, che è morto di AIDS, ha detto che è morto di AIDS, ha detto una cazzata grossa come una casa. A parte questo, dico, la politica della toccata e fuga non è una politica che protegge, ecco, quindi preservativo toccata tutta e la fuga vita. Senza preservativo, dice, uno può fare anche può praticare pure la toccata e fuga col preservativo e non succede nulla, diciamo. Non dovrebbe accadere nulla. Beh, non dovrebbe, scusa. Ma in che senso non dovrebbe? Scusa, che c'è pericolo pure in quel caso, non ho capito. Se si rompe sono cazzi, ho capito l'argomento. Sì, d'accordo, però insomma, adesso sono casi, per carità. Sì, dico, accade raramente, però può capitare, ecco. Vabbè, Vincenzo, Roma, vai. Ciao. Vincenzo, buonasera. Dimmi. No, io volevo ritornare sul comune di Roma. Io penso che il problema non è tanto se sapeva o non sapeva la Raggi dell'avviso di garanzia a Muraro. Io penso che per coerenza il movimento non doveva proprio nominare l'assessore all'interno del comune, dato che loro fanno dell'onestà e ogni... E perché non doveva nominarla? Non ho capito. È perché ogni qualvolta c'era un problema in un comune, in un partito, in qualcosa, tutti a casa, tutto quanto, dato che la Muraro era stata seppur sfiorata con i contatti, sì, con Butti. Vabbè, comunque, secondo i criteri del movimento non doveva entrare nemmeno in giunta. Vabbè, esatto, adesso questo mi sembra un problema. In questo momento si sta parlando di altro, del fatto che il sindaco e probabilmente anche Di Maio sanno che un assessore importante del comune di Roma, il comune appena conquistato dai 5 Stelle, onestà, sì, trasparenza, tutti mafiosi, tutti delinquenti, eccetera, eccetera, non ha comunicato urbi e torbi al proprio elettorato, ai cittadini, eccetera, il fatto che un assessore è indagato, che per i 5 Stelle significa quasi condannato secondo i loro criteri. Questo è il punto. Vai, Alfonso, Roma. Alfonso. Sì, ciao ragazzi. Dimmi. Questo. Il discorso qua dello slogan per quanto riguarda la prostituzione, sul discorso che è il mestiere più antico del mondo e quindi questo... Ma chi è che fa questo slogan, scusa? Chi è che lo dice? Cioè, chi tende a giustificare la prostituzione parte innanzitutto con questo. È il mestiere più antico del mondo, ma sinceramente questo forse è la scusa più bella che uno può trovare per giustificarla. Perché poi per il resto... Ma non c'è da giustificare, c'è da rendersi conto di una realtà, non è questione di giustificare. È una realtà che può tranquillamente sparire, come d'altronde sono sparite tante cose. I dinosauri si sono estinti, i mestieri... Ma sì, uno può sperare nell'estinzione naturale della prostituzione, mi pare un po' complicato. Naturale, no, ma con una legge vedi come si estingue. Ma una legge quale? Non è che le leggi fanno estinguere i fenomeni, non diciamo cazzate, dai Alfonso. Intanto però potrebbe servire da deterrente e poi vediamo come va, perché sinceramente... Ma quale sarebbe questa legge? Non ho capito, quella che punisce i clienti, ancora con sta storia, è un anno che ci torniamo sopra, è un anno che chiamiamo i sindaci che applicano queste, che fanno queste ordinanze ridicole. Ma non dico che devono applicarla, intanto la facessero. E quindi... Ma che cosa? Una legge sul modello di quella, che ne so, francese o svedese, che bisogna punire anche i clienti delle prostitute? Ah sì, ma tanto non fa male a nessuno, no? È una legge, sta lì e poi se viene applicata o no... Ma i primi che dicono questa cosa secondo me sono quelli che vanno a Mignotte, secondo me tu vai a Mignotte, Alfonso. Ma sicuro al 100%, guarda. No, sì, mai andato. Mai andato. Ti consiglio a ste ragazze, trovate un bel ragazzo, magari con un po' di soldi, e a chi invece ne fa le utilizza, magari andate a fare una corsetta, andate a fare la barba e capelli e probabilmente qualche cosa trovano, perché non credo che questa può essere la soluzione per affrontare. Sì, ma questo è un modo di vedere le cose, un po' etico se vuoi. Cioè, io il mondo viene modellato a mia immagine e somiglianza, non funziona così. No, cioè, allora, tutte le mattine per cercare di trovare una prostituta. Che ma chi ha detto alzarsi tutte le mattine? Che vuol dire? Cioè, non, ognuno... Io sinceramente la vedo pure come una dipendenza. Dopo un po' che uno ci va, non credo che ne potrà fare mai a meno. Ma non è detto, c'è chi non ne può fare a meno, c'è chi invece va a mignotto una volta ogni morta di papa, c'è chi va a puttane una volta a settimana. Cioè, ci sono le situazioni le più varie, nessuna va sanzionata, nessuna va condannata. Invece, secondo te vanno puniti questi qua perché sfruttano il corpo delle donne. Sfruttano il corpo delle donne. È un modo un po' ma non so, mi sembra l'ultima spiaggia di una persona che dice no, so che fare. Ma non è vero, ci sono persone che hanno donne, mogli, fidanzate, una quantità di donne inenarrabili con cui possono andare che vanno lo stesso a puttane. Sanno sto tic, diciamo, quello di una sarantica in certo ma modo. Non è un tic, è una cosa che può capitare vento, nella vita. Un vento, ma non riesco a qualificarlo, però ecco, giustificarlo come tanto il mestiere più antico e deve rimanere. Ma nessuno dice questa stronzata, dai, non è questione di mestieri antichi, è questione di una realtà che c'è, che non si può debellare con le leggi, né si può debellare con i sindaci che puniscono i clienti, eccetera, eccetera. Ma, vai, vabbè. Stefano Padova, Stefano, vai. Ciao. Dimmi Stefano, dimmi. Ciao il concittadino. Dai, no, se n'è andato perché c'ha la sette. C'ha la sette. Sarò rapido, due cose. Uno, la stronzata che ha detto Sgarbi è proprio allucinante. Cioè? Sembra quasi che la mancanza di promiscuità tuteli dalle malattie. Però volevo dire una cosa, volevo andare controcorrente su una cosa, Giuseppe. Dimmi. Io ho votato il Movimento 5 Stelle ultimamente. Sono preoccupatissimo per quello che sto vedendo. Eh beh, ti credo. Io non lo difendo a spada tratta. Ma non è che ci si tratta di difendere, ancora qui, ma no, se ti caghi addosso significa che c'è qualcosa che ti potrebbe danneggiare, non ti danneggia nulla, non è che Roma in mare 5 stelle. Allora, i risultati ancora li dobbiamo vedere. Io non dico nulla sui risultati, dico solo che stanno facendo dei pasticci. Prima con le dimissioni degli assessori non si capisce perché. La seconda cosa con questa vicenda qua ridicola dell'avviso di garanzia alla Muraro, cioè questa è una cosa gravissima secondo i criteri di questi signori qui che si sono inventati un mondo fatto di onestà, trasparenza, sono i primi a dire bisogna essere trasparenti, poi sai che una è indagata e non lo dici solo ai tuoi capetti, i quali a loro volta non dicono nulla ai cittadini, alla gente, alle persone. Dai, su, ciao. Era ora che tornavate, bastardi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. L'unica persona inutile sei tu, Cruciani. Fottiti. Cruciani, diventerai musulmano prima di morire, testa di cazzo. Proveremo un brivido di commozione quando ti accascerai tu e tutti quelli come te. Ciao. Ciao Cruciani, Mauro da Padova, dopo il Mauro da Mantova. Un solo suggerimento, attento alla sindrome di Lenny Bruce. Allora, Angelo da Livorno, vai Angelo, vai. Dimmi. Cruciani, buonasera. Vai, dimmi, no, Angelo. Volevo solo rispondere principalmente alla signora di prima, no? Che una ragazza di 20 anni o di 30 anni che si mette insieme con uno di 60 o 70 ricco, ok, la posso mettere alla pari di una prostituta. Assolutamente. Ecco. Teoria sgarbiana più volte enunciata, su cui non si può che concordare, assolutamente. Infatti, poi io abito a Klagenfurt, a 3 km da... Grande città, piena di bordelli molto interessanti, soprattutto di un bordello, sì, ma città civilissima, dove uno se vuole, a un certo punto della giornata, si va a rilassare, si toglie l'abito, c'è il suo armadietto, prende, entra, paga, si mette l'asciugamanino, dimmi, correggimi se sbaglio, ci sono posti meravigliosi, frequenta delle signorine, paga, se ne va, queste signorine sono contente, felici di fare il lavoro che fanno, guadagnano, punto e basta, cose civili normali, normali, e bisogna andare a pochi chilometri dal nostro paese, non è obbligatorio andarci. Quattro. Ovviamente. Quattro, no, quattro, quattro. Cioè, quattro. Arno stende a 4 chilometri da Starvisio. E tu che, come mai abiti proprio a Klagenfurt, caro Angelo? Ho una società a Klagenfurt io. Di che si occupa la società? Io di noleggio televisivo, apparecchiature televisive. Ah, ho capito, ho capito. Perché paghi meno tasse? Infatti anche. Anche per quello. E poi, diciamo, si vive in Rovere là. Beh, immagino, immagino. Cosa mi volevi dire, Angelo? Non ho capito. Ma niente, volevo solo dire che per quanto riguarda lo sfruttamento, le signorine di là viaggiano con BMW 535, Mercedes, tutto quello che guadagnano lo prendono in contanti direttamente loro. Loro pagano l'ingresso come lo paghiamo noi per entrare all'interno del Welcome o dell'Andiamo, sì, praticamente. Tu quante volte vai, Angelo? Angelo, quante volte ma vai? Io una volta ogni 2 o 3 mesi. Intanto sono single, non ho niente da fare. A novembre faccio 50 anni e vado a Bangkok 15 giorni. A che fare vai a Bangkok 15 giorni, scusa? La stessa cosa che faccio quando vado al Welcome a Klagenfurt. Vabbè, non è che c'è bisogno di andare a Bangkok, però. Qual è la differenza? Scusami. Lo so, è perché volevo cambiare un po', diciamo, etnia. Style, etnia, questa parola. Volevo cambiare etnia, beh, amico mio. Tu vuoi proprio farmi rinchiudere in galera, tu, cioè, no, vuoi proprio far dire a un sacco di gente che questo è un covo di sporchi, tassisti, schifosi, pervertiti, no, puttanieri, no, che vogliono andare a troie in Thailandia e giù di lì. Cioè, è questo che tu vuoi farmi dire dalle persone, che io accolgo il peggio del peggio, la feccia italiana, i maschilisti, gli schifosi maschilisti, puttanieri, che hanno una considerazione delle donne molto bassa, come pensa per esempio la signora che ci ha chiamato prima, e però sta sempre ad ascoltare qui. E questo il tuo intento, il tuo obiettivo è questo, è quello di farmi passare come il peggiore di tutti, di farmi mandare via, di farmi cacciare ignominiosamente non solo da questa radio, ma da tutta la radiofonia italiana. Impossibile, impossibile, impossibile. La Zanzara non verrà mai chiusa, secondo me, a meno che non decidete voi di chiudere. Su questo si può discutere. Vabbè, ciao amico mio, ciao Angelo, ciao. Valentino Torino, vai. Ciao Angelo, ciao. No, però scusa, Angelo che voleva dare delle informazioni sulle prostitute austriache, leggo qua. Vuole dare info su prostitute austriache. Vabbè, richiamiamo, dai. Valentino Torino, vai, dimmi. Ciao Giuseppe, niente, volevo solo intervenire sul fatto che tanta gente la butta sul critico riguardo la prostituzione. Però non ci dimentichiamo che c'è anche un lato terapeutico della cosa. Nel senso che quei ragazzi poverini che hanno degli handicap, che ci sono... Sì, l'abbiamo già detto mille volte, anche questo, sì, c'è anche questo, però insomma questa è una parte marginale, però, Guarda, Giuseppe, io ho anche un figlio che ha 17 anni, va per i 18. Che c'ha? Come è successo a me a militare, ti succederà di avere uno sfogo. Non ho capito, 17-18 anni si può procurare anche le donne a prescindere dalla prostituzione, perché in realtà se vuole andare a puttane, cioè tu saresti contento che tuo figlio andasse a puttana a 17 anni? Non che sarei contento, ma non mi dispiacerebbe, nel senso che comunque accompagnalo tu direttamente, presentati una signorina, che ne so, ne conoscerai, no, lì a Torino, vabbè, no? È pieno a Torino. Qui sarebbe un po' troppo cruda la situazione, Giuseppe. Ma che cruda, perché? Dagli dei consigli, comunque, ma lui ci vuole andare a puttane o no? Dimentichiamo che, come dicevate prima, ci sono comunque delle signorine che hanno i loro, che sono contente di fare questo lavoro. Ma sì, per, ma l'abbiamo detto più volte, molte le ospitiamo pure, appunto, io sono un assiduo ascoltatore della Zanzara, per cui so di cosa sto parlando e so di cosa sto dicendo. Per quello che per me mi sembra un po' una battaglia che non vabbè, allora niente. Dopo la legalizzazione, che volevi dire, Valentino? Non ho capito. Volevo dire che appunto per me non c'è nessun problema, anzi. Vabbè, questo l'abbiamo capito, basta, solo questo volevi poi dire. Volevo anche dire sul fatto di Sgarbi, che è una roulette russa, è successo anche a me. Cosa è successo? Pizzicare senza alcune protezioni e non è mai successo. Vabbè, ho capito, però Sgarbi ha detto una cazzata, ha detto una minchiata grossa come una casa. Come fai a dire russa, Giuseppe, ma che c'entra la roulette russa? Lui dice sostanzialmente, primo, che si rischia di più ad avere una donna fissa piuttosto che dei rapporti, diciamo, plurimi. Primo, secondo, addirittura che non, l'AIDS non colpisce, non fa morire persone eterosessuali. È una cazzata spaventosa, no. Dai. Orrenda, su questo siamo d'accordo, Giuseppe, però voglio dire, è una roulette russa, ti può andare bene come dicevi tu prima. Vabbè, ma ho capito, quando... ma meglio prendere le precauzioni perché ti vada bene, no? Chiaro, se tu hai un tuo interesse nella vita, coltivare certi tipi di interessi, è normale che tu mi puzzi, sei uno di quelli che secondo me non usa nulla quando va, o no? Non è che non uso nulla, Giuseppe. Non usi niente, dai, su. Certe persone magari si affidi più o meno al fato, ecco. Al fato. Non usi niente perché secondo me senza non funzioni. No. Non ti va, senza, non, quanti anni hai, Valentino? Non ho capito. Sono del 64, Giuseppe. Della? Posso avere. Non tanti più di te. Del 64, cioè c'hai sostanzialmente 52 anni. 52 anni. Vabbè, Valentino, ciao, ti saluto, ciao. Ciao, grazie, I'm Giuseppe. You wild one. Wild one. Ragazzi miei, ho scoperto una cosa, ho scoperto che esiste, l'ho scoperto oggi, anzi l'hanno scoperto per me quelli che lavorano in questa trasmissione, che esiste la vegefobia, cioè il rifiuto del vegetarismo, cioè praticamente come l'omofobia. Io, che secondo questi signori, io e altri, che non sopportiamo i vegetariani, non sopportiamo i vegani, eccetera eccetera, abbiamo una sorta di handicap, abbiamo, commettiamo un delitto grave assimilabile quasi all'omofobia. Cioè praticamente che cosa facciamo? Discriminiamo quelli che sono vegetariani, cioè lodiamo il sapore della carne, eccetera eccetera. Quella che parla è una signora, com'è che si chiama questa signora? Ditemelo un po'. Silvia Molè, come l'hanno suggerito, Silvia Molè. Ed è una che sostiene che uno come me in realtà ha un problema simile all'omofobia, è la vegefobia, cioè l'odio nei confronti dei vegetariani. Una cosa ridicola. La vegefobia è quella strategia o anche quell'atteggiamento, quella disposizione che, per così dire, può evitare a ogni costo di far vacillare le certezze specifiche attuali. Sentite il linguaggio di questa e poi continua, sentite. Gli animali hanno praticamente solo gli antispecisti o i vegetariani, i vegani a difenderli. Quindi attaccare queste persone cosa significa? Significa attaccare gli avvocati degli animali, ma le prime vittime di questi attacchi sono ovviamente gli animali stessi. Le prime vittime degli attacchi sono gli animali, cioè gli animali vittime di attacchi. E ora veniamo proprio agli strumenti della vegefobia. Lodare il sapore della carne. Se mangiare la carne è un immenso piacere, il fatto di uccidere gli animali per provarlo diventa meno riprovevole. Ragazzi, ma questi sono matti. Questa Silvia Molè fa parte di questo gruppo di assatanati, di estremisti. Si sono inventati pure... cos'è che sono inventati? Una cosa che significa come l'omofobia, che è la vegefobia. Nicola Ascoli, vai. Sì, Peppe, un attimo, dai, vista a me. Senti, ti volevo dire. Nicola, aspetta, stai calmo. Devi avvicinare il microfono, devi staccare le cose. Calmo, sì. tranquillo. Dimmi. Sono uscito dalla ditta perché un attimo. Che hai fatto? Senti, che hai fatto? Che ditta? Dove lavori? Qui a Stella di Monzambolo, facciamo. Dove? Dove? A Stella di Monzambolo, qui. Sì, vabbè, ma che ditta? Che ditta è? La ditta è la Tecnodubbi, facciamo i tubi da irrigazione. E che fai tu, l'operaio? Che fai? Sì, faccio l'operaio, avvolgo le matasse in pratica. E come cazzo fai a ascoltare la Zanzara mentre lavori? Forzo le cuffie, due ore. Bravo, bravissimo. Dimmi. Senti, ti volevo dire che Rocco è il numero uno. Sempre il numero uno. Anni luce avanti, guarda, riguardo al sesso volevo dire. E niente, ti volevo dire un'altra cosa, che a me da ragazzo mi è capitato di fare un'esperienza, come ti posso dire, vabbè, insomma, non è male ogni tanto provare anche quell'altra cosa, perlomeno come mi ricordo io. Non ho capito, sei andato con gli uomini? No, degli uomini, una volta con un ragazzo mi è capitato. Ma a quanti anni, scusa? A quanti anni? Avevo, non so, 15-16 anni. Ah, vabbè, ma una cosa leggera oppure una cosa completa? Una cosa così, per provare, un paio di volte, sempre la stessa persona, però ti devo dire che vabbè, me, ti piace? Non mi ricordo male, non è male. Vabbè, ti piace? Ancora c'hai dei pensieri sull'uccello, diciamo la verità. Quando ti ascolto, più che altro. Ma come quando mi ascolti? Non ho capito. Che vuol dire? Ti vengono i pensieri quando ascolti la Zanzara? Ti vengono pensieri, sì, omosessuali? Esatto, quando ascolto te, perché mi piace. Io, se ero una donna, te la davo subito a vista, a te e a Rocco. Vabbè, ma adesso, scusami, però, Nicola, abbi pazienza. Va benissimo, per carità, sono anche lusingato da questa cosa qua. Però mi stai dicendo che ascoltando la Zanzara, ascoltando Rocco Siffredi, ascoltando il sottoscritto, ti vengono pensieri omosessuali, pensieri gay? Sì. Cioè, non ho capito, tu andresti con me? subito, subito, te lo darei immediatamente, guarda. Vabbè, ho capito, ragazzi, qui siamo veramente alla fine di tutto. Ma peccato che non c'è David, adesso domani rimettiamo un attimo questo audio, facciamo sentire Parenzo, anzi ti richiamiamo, perché voglio capire che cosa pensa Parenzo di questo degrado totale della situazione, perché chiami tu, che sei un operaio presso una ditta di tubi vicino Ascoli, e mi dici, quando ti sento alla radio, in realtà mi fai venire delle perversioni sessuali, degli istinti sessuali. È colpa mia. No, vabbè, per carità, non sto dicendo che è una colpa, sto dicendo che però... Ho moglie e due figli, figli di 20 anni, purtroppo mi è successo. È successo e se ti ricapita va pure bene, dici, no? Non lo so, se il momento è giusto che ha, con qualche bicchiere di vino, non lo so, però con te e Rocco solamente, però. Ma scusami una cosa, ma tu ti piace più la situazione passiva o attiva? A me piace più attiva, però con voi due potrei essere passivo in qualsiasi momento. Ma ragazzi, che degrado assoluto, cioè siamo veramente al degrado più assoluto, cioè suscitiamo anche perversioni di questo tipo da parte di signori operai, anche da questo punto di vista anche una sorpresa, una sempre l'idea, no, dell'operaio che lavora, invece gli operai che hanno pensieri gay, come Nicola d'Ascoli Piceno, che ci chiamano meraviglioso. Vabbè, Nico, che volevi dire oltre a questa cosa? Niente, volevo dire anche del Movimento 5 Stelle. Che volevi dire? Che hai fatto come si chiama quello lì che era siciliano? Gianrusso. Ho votato 5 Stelle, ero quasi un militante. Dopo questa chiamata, ero scherzo che ha fatto, ciao, che non sentiva. Adesso ho finito 5 Stelle, non voto più. Non voti più 5 Stelle, vabbè, se ne faranno una ragione. Ciao, Diego Treviso, ciao, Diego. Sì, ciao. Allora, è andata a finire un po' in vacca tutta quello che volevo dire. Cioè? Volevo parlare un po' della Raggi, però mi limito invece al discorso delle prostitute. Sì. Io sono dell'idea... Non che ci sia un collegamento tra le due cose, perché... No, assolutamente no, sono due argomenti totalmente diversi. Sì. Io non so come la pensi te, ma secondo me... L'andare a prostitute è un segno d'amore nei confronti della propria donna. Beh, attenzione, questo è importante, perché è un segno d'amore? Questo è interessante anche da riproporre a Parenzo, anche questo, perché lui la pensa diversamente. Cioè, tu sei sposato? Esatto. E vai a prostitute? No. Per la mia esperienza, io non vado a prostitute, non vado per strada. Ma mia moglie lo sa bene. Cioè, vai o non vai? Non ho capito. Allora, ci sono prostitute e prostitute, ci sono le poracce che sono lungo la strada e quelle... No, per me è uguale, ma perché devi fare queste differenze? Cioè, è più nobile andare in un bordello piuttosto che andare con uno in mezzo alla strada? Secondo me sì. Vabbè, perché... questo è razzismo. Cioè, può essere che sia un mio limite. Io tu vai magari in un bordello, o non so dove, in un centro massaggi, non so dove, meno traditore nei confronti di tua moglie. Soprattutto i centri massaggi. Perché i centri massaggi è una cosa lunga, ti fanno un massaggio, ti fanno star bene fino al momento... E tua moglie lo sa o no? Mia moglie lo sa. Io non è che vado tutti è un i giorni... Modo, è un modo da parte vostra di sentirvi, diciamo, in qualche modo... No, ci sono momenti... Trovate stimoli... Io ho 45 anni, lei ne ha 43, ci sono momenti nella donna che ha 43 anni non è reattiva come un uomo a 43. Io ho una ipersessualità. Una vita biologica di 30 anni, mia moglie ha una vita biologica di 43 anni, l'età che ha. Ma scusami, ci fai parlare con tua moglie o no? No, io adesso sono in macchina. No, ma domani mi ci fai parlare o no? Dai, promettimi, promettimi che mi ci fai parlare, perché non te lo prometto, ci provo. Provaci, ma non te lo dai, provaci. Cioè, però provo... lei è consapevole, mi stai dicendo, è consapevole del fatto che tu seriamente, io ho delle ragazze, delle persone, delle donne che si prostituiscono, sono donne di un certo rango, ci vado. Ma io non sto dicendo niente. Io con mia moglie mi faccio delle... ci andiamo bene, mi diverto con mia moglie a fare l'amore, però ci sono momenti... In cui hai bisogno di altro, hai bisogno di altro. No! Che lei non ne ha voglia, io ho voglia. E però gliel'hai comunicato, glielo dici, e questo, siamo da un certo punto di vista, è il top assoluto del rapporto. Beh, Diego, chiedi a tua moglie, ci sentiamo domani, ragazzi. Ciao. Zanzarosi! Andate a cagare! Voi